zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai. Giù! Sì, sì, sì. Basta, basta, non ne posso più, sei lontano, non si sente. Non si sente. Ma chi se ne frega, il treno per Padova, David Parenzo in viaggio per Padova, si sente male la tua voce, si sente male tutto. Ma come mai? Mi senti ora? Sì, ma si sente male, si sente male. Ma come può fare male? Sembra lamentarci lei. Ultimo giorno della zanzara prima delle vacanze natalizie, 800 24 00 24. Nespoli ai doppi incarichi, senatore del PDL che non vuole mollare la poltrona di sindaco, insomma non vuole scegliere, sentiamolo questa mattina, addirittura dice che l'Italia è da terzo mondo sui doppi incarichi. Ogni tanto qualcuno mi dovrebbe spiegare perché su tutte le cose dovremmo essere europei e su doppio incarico dobbiamo essere del terzo mondo. Senta, in però in Europa è consentito fare il sindaco e il parlamentare. Tanti galli che cantano. Faccio risparmiare, favorire i doppi incarichi. Stai zitto, faccio risparmiare e favorire i doppi incarichi. In un momento di crisi si dovrebbe favorire la doppi incarico. Ah, perché è un risparmio. Un risparmio. Io faccio risparmiare 100.000 euro all'anno al mio comune. I colleghi sono solo tre giorni a Roma, le mie presenze sopra la media, 81%, sentiamo. Tutti i parlamentari stanno tre giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze, in commissione e in giunta, faccio il mio lavoro di senatore, chiunque mi può giudicare, in più faccio il sindaco e non vengo pagato, non ho nessuna indennità. Non voglio la diaria, la propaganda di Rizzo e Stella, i giornalisti del Corriere, quelli della casta. Ma lei che non sta a Roma, la diaria, che le serve? La diaria viene fatta... Sta a Roma, cioè, ho detto a Roma, non so se la... Un giorno e mezzo sta a Roma. No, sono due notti a Roma. Due notti, 4.000 euro al mese. Guardi, io non la voglio la diaria, io vorrei andare nello stesso albergo dove va Rizzo e Stella quando vengono a Roma e voglio mangiare negli stessi ristoranti di Rizzo e Stella, perché loro ci levano una cassa. Io voglio mangiare dove mangiano e dove dormono loro. Non la voglio la diaria. Giudicate il lavoro che uno fa, smettetela con questa propaganda. Beh, non la vuole, però la prende la diaria, mi sembra. Cioè, non la vorrebbe, ma la prende per stare un giorno e mezzo a Roma. Vabbè, ma possiamo intanto dire che signor Rizzo abita a Roma e quindi non ha bisogno di nessun albergo. Possiamo smettere di dire sciocchezze ogni volta che si fanno delle inchieste. Stai zitto, stai calmo, stai calmo, stai calmo. Ho già qui un ospite. Stai calmo, stai calmo, stai calmo. Va bene, va bene. Ancora Maroni sui doppi incarichi, contro invece gli stessi doppi incarichi, anche se nella Lega ci sono posizioni diverse, eh? No, non è così. Ho visto questo voto in Senato. Alla Camera abbiamo tenuto un'altra posizione, tant'è vero che due parlamentari della Lega si sono dimessi. Perché hanno giustamente deciso. Non lo so, ho letto anch'io questa cosa, non voglio approfondire perché la posizione corretta da tenere secondo me è quella Camera, che abbiamo tenuto alla Camera. Ben arrivato qua Sherlock Holmes, detective privato Sherlock Holmes. Lo Sherlock Holmes, ancora nessuna novità delle nuove indagini di Francesco Barbato, che ieri qui alla Zanzara ha rivelato che ci sono filmati addirittura che riguardano Gianfranco Fini. Sentite Barbato. Del presidente Fini ne parleremo invece in altri filmati che ho, perché seguiranno, perché io non mi fermo, ci sono dei filmati che riguardano l'attività del presidente Fini. Punto. Le minacce di Francesco Barbato, siamo qui alla Zanzara, 800 24 00 24, con Ignazio La Russa che salutiamo. Buonasera, buon Natale. Natale era ora, che arrivasse Natale. Come era ora? Come? No, ma vi accorgete che Natale arriva con qualunque governo, con qualunque spread. Ma perché lei arriva comunque Natale? Ma perché lei dice era ora? Non ne poteva più, che è successo? così con Natale ci facciamo un po' di pausa dalla politica. Senta, ma lei come si trova a, non dico a governare perché è una parola grossa, a votare? No, governare. No, certo. Governare no, adesso non esagero, non è che con c'è il governo. Con Bersani. Con Bersani, come si trova con Bersani a votare insieme a Bersani, a votare le stesse cose? Che sensazione ha oggi che è il 23 dicembre? Una bruttissima sensazione. Brutta, molto brutta. È bello. Però, grazie a Dio non governo insieme a Bersani, ho votato non Bersani, ma ho votato la fiducia, vabbè. Come si sa è una specie di certificato di sopravvivenza. Un governo che ha fatto una manovra che non mi piaceva, che non ci piaceva, l'abbiamo migliorata. Poi devo dire la verità, io sempre la verità. Sinistra, e mi è già capitato di votare il no insieme quando eravamo all'opposizione, parlo del 92. Ma quello sulla legge elettorale? No, eravamo all'opposizione. Ah, su vari provvedimenti, dice lei. MSI e PC, Dio come si chiamava dopo, sì. Tutti e due all'opposizione di un governo della DC, del centrosinistra, votavamo sempre nella stessa maniera, ma era un'identità nella opposizione. Stavolta è l'opposto. Insomma, io proprio sono veramente curioso, lei dice una bruttissima sensazione, però, ma lei ha votato, esagero. Ma come esagero? No, ma è la realtà, anzi lei secondo me dice anche poco rispetto alla sensazione che ha votare insieme a Bersani. Io voto insieme a Bersani, io voto i provvedimenti che abbiamo ritenuto siano non i provvedimenti, un governo tecnico. Vabbè, la Russia qui Alfano Bersani si sentono spesso, questa è la realtà, diciamo, non stiamo a sfuggire. Alfano, no, Bersani e Casini si sentono, su. È un governo a tre, è un si governo sentono, a tre. Che vuol dire? Si sentono, si parlano. Si parlano, si mettono d'accordo, si coordinano qualche cosa. Che non sono loro che fanno il governo, se no saremmo andati al governo. Ce l'hanno offerto di andare al governo come ministro. A me personalmente l'hanno chiesto. A che l'hanno chiesto è lei? Interessato a fare il ministro della difesa di un governo metà tecnico e metà politico. E abbiamo detto di no. E anzi, il Popolo della Libertà, a differenza dell'UDC e a differenza del Partito Democratico, non ha inteso mettere neanche un sottosegretario politico. Invece loro lo volevano fare, dice lei, Casini e quegli altri. Uno l'hanno messo, un sottosegretario, almeno uno l'hanno messo. Dell'UDC, anche uno del Partito Democratico, anche D'Andrea, come si chiama? No, esatto, noi invece abbiamo ritenuto di no, ecco perché è meno pesante, però io aspetto con impazienza il momento in cui si possa rientrare nella normalità. Ma anch'io, devo dire la verità, io su questo sono d'accordo con la Russia, io voglio andare a votare, la Russia anche lei, me lo dica anche lei, voglio andare andare a votare, ma non metto una data di scadenza al certificato di sopravvivenza, ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma non un momento di più. Senta, ma l'offerta, quando gliel'hanno offerto di restare al ministro della difesa, lei ha detto no, io con un ministro del PD non ci posso mai stare? Ma hanno offerto, li ipotizzavamo e appunto. Preso un parere negativo, mi ha detto, perché si parlava di alcuni ministeri chiari, sì, certo, per continuità, eccetera. Io ho espresso un parere negativo, intanto per me, ma anche come ipotesi, a prescindere dai nomi, perché mi sembrava che un governo miscelanea non servisse al paese. Quello tecnico vediamo, noi siamo qui ad aiutare a tirar fuori l'Italia dai guai, però sai cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di nuovo? Ahimè, è una notizia di pochi minuti fa. Che è successo? Lo spread è andato di nuovo sopra. Quello già era andato un po'. Ma non doveva essere tutta colpa di Berlusconi. Ma ti ricordi che... Come no? Bottiglione disse appena... 300, disse 300, 300. Scende di 300 punti. Io credo che dovrebbe essere la corbelleria del secolo questa. Dovremmo incorniciarla, farla vedere ogni giorno. Insomma. Da lì si è capito come fosse tutto un meccanismo forzato da parte italiana di una... Ma chi ha fatto fuori Berlusconi secondo la Russia? Chi l'ha fatto fuori alla fine Berlusconi? Lo spread? Un complotto? Berlusconi non l'ha fatto fuori nessuno, perché ricordo che si è dimesso volontariamente. Vabbè, comunque, insomma, chi è che l'ha... La condizione per cui non poteva più rimanere il governo era, prima di tutto, che non avremmo mai avuto la prova contraria. Cioè se Berlusconi non si fosse dimesso, tutti, forse persino noi, cominciavamo a credere che davvero c'entrasse il governo Berlusconi. Però scusi, Napolitano ha detto che la sostenibilità internazionale ormai era ridotta al minimo. Difatti, appunto, senza la controprova avremmo creduto che la sostenibilità internazionale fosse motivata da qualcosa di diverso invece da un puro accerchiamento. Senta, lei pensa come Calderoli che ci sia un'assenza di democrazia, una sospensione? Come me lo descrive questo periodo? È una parentesi della democrazia. Ah, una parentesi. È una parentesi perché il governo ha una legittimazione democratica. Vabbè, questo non c'è dubbio. L'abbiamo votato in Parlamento e quindi la democrazia c'è, ma è all'interno di una parentesi. È pacifico. Che vuol dire una parentesi? Cioè, vuol dire che c'è un prima e c'è un dopo, e queste le parentesi racchiude. E questa qua è questa come la chiama? Questa come la chiama? Una sorta una parentesi. Un limbo della democrazia. No, come non è un limbo, è una parentesi. Io ho detto all'interno della parentesi c'è qualcosa che unisce un prima e un dopo e che potrebbe non esserci, ma c'è, questa è la parentesi. Allora, all'interno della parentesi c'è un governo che non è voluto dagli elettori. Mi auguro che quando non sarà più necessario, e comunque non oltre ovviamente il 2013. Vabbè, quello è impossibile comunque. No, beh, magari qualcuno lì. Beh, chi gli fa adesso? La Russo, non esageriamo. Chi può avere in mente di... no, questo non esageriamo. Chi lo sa? Sento una cosa, ma per esempio, sembrava che fosse stato raggiunto un accordo per il fatto che nessuno di questi ministri, un accordo, insomma, poi un accordo sempre a parole, si possa ricandidare dopo. Invece ho sentito, per esempio, uno dei ministri, Passera, che insomma non fa mistero delle sue ambizioni politiche. È una cosa normale, secondo lei? Ma guardi, io questi impegni in politica di uno che dice non mi candiderò mai, non ci ho mai creduto. Lei pensa che alcuni ministri abbiano grosse ambizioni politiche? Sono sospesi, con l'accento o senza accento. Passerà politico o passerà e non sarà politico? Non lo sapremo, fino alla prossima occasione. Dunque, una cosa sulla non è grave che un ministro di questi si candidi. Grave sarebbe immaginare che nasca un partito del governo, non so se mi spiego. Sì, vabbè, questo. Poi il ministro X o il ministro Y entra in una formazione politica, lo garantisce la Costituzione, anche l'impegno a non candidarsi, che pure c'è stato. È un impegno che vale quanto valgono questi impegni in politica. Quello sarà inevitabile comunque qualcuno. No, dico valgono poco, poi. Vuol dire, lei pensa che sia inevitabile che qualcuno che per un anno e mezzo ha avuto la notorietà di fare ministro, qualcuno poi alla fine abbia la tentazione di fare politica? Alla fine succederà, insomma, non è... Sai com'è sta cosa, la politica la odiano tutti, però poi quando ci provano gusto è difficile smuoverla. Io che invece alla politica non ci ho provato gusto tardi, ma che per passione l'ho fatta da quando avevo 10 anni. Prova gusto ancora però, secondo me. E devo dire che per almeno 35 successivi anni... Si è rotto le scatole, non mi dica che si è rotto le scatole. Mi sono rotto le scatole. Sa cosa c'è di bello, quelli della mia generazione, della mia parte politica, ma non solo della mia, forse anche di quella opposta, una parte di quella opposta, che quando abbiamo fatto politica noi, quando abbiamo cominciato e poi proseguito per tanti anni, nessuno poteva sospettare che facessimo politica per i privilegi. Io ho fatto politica quando farei politica a destra, era un po' faticoso. Ma insomma, non sei stufato lei, la Russia, dopo questa cosa del governo tecnico? Se è fatta per passione con la P maiuscola, è la cosa più bella del mondo. Insomma, lei ci sarà, dopo il 2013 ci sarà, questo è il punto. Poi la politica ci sarà, a me piacerà fare politica, il ruolo che uno ha in politica. Vabbè, ma comunque ci sarà. Dipende dalle contingenze. Ma vabbè, torniamo subito. Fare politica per passione. Torniamo subito dopo il traffico. Parenzo, adesso do la parola pure a te, ma sei in treno non si capisce nulla. Bene, siamo qui, 800 24 00 24. Parenzo, che fine hai fatto? Ecco, in treno, nei treni dell'ingegner Moretti, verso Padova. Sì, di nuovo attaccato da Della Valle, mi segnalano da qualche parte, pare che abbia telefonato ad una trasmissione. L'ingegnere? Sì, da Santoro, ha chiamato dicendo, se prendendosela di nuovo con Moretti. Questo Della Valle è scatenato contro Moretti, chissà perché, è una cosa strana. Ha forse qualche interesse, qualche treno in partenza, la Russa, come mai questi... Lo dico io, è una confusione. Lui non ha capito che Moretti non è parente di Moratti, lui ce l'aveva con l'Inter, bravo. Ha sbagliato una vocale, ha preso Moretti per Moratti e se lo sta maciullando. No, effettivamente ce l'ha con tutte e due, ce l'ha sia con Moratti che con Moretti. No, prima con Moratti, adesso ha sbagliato, ha visto Moretti, non ha capito bene, ha detto deve essere parente, e allora dai su Moretti. Senta, ma in questo 2011 che va a terminare, lei si pente di qualcosa, la Russa, di qualche errore che ha commesso, che ne so, la litigio? La litigata con Formigli, lo stronzo che ha dato ad Amendola, qualche litigata di troppo in televisione. No, quello ci sta tutto. Anche perché non gli ho dato dello stronzo, ho detto se lui è, quindi era con un if in inglese, perché non so se di Amendola si pende di avere aizzato la folla contro uno che andava al Festival del Cinema, lui personaggio pubblico, ma comunque, vabbè. Chieda a lui se si pende. No, sa di cos'è che mi pento? Mi pento di aver invece consentito a Fini di, in quella occasione famosa in cui secondo voi alzai il braccio senza pronunciare nessuna parola, ma dando l'impressione di mandarlo a quel paese, mi pento di aver consentito che si montasse questa storia. Ecco, che errore ha commesso nella storia con Fini lei? Non è un errore nella storia con Fini. Mi pento di avere dato l'opportunità di far montare una storia per aver alzato un braccio dopo che mi sentivo non tutelato in quell'occasione da Fini. Però forse è stato un bene, pensarci meglio, perché è stata una sorta di catarsi. Da quel momento sono sentito molto più sereno e tranquillo. Ma lei potrebbe tornare in una coalizione, se non addirittura al governo con Gianfranco Fini, o è una cosa impossibile ormai, dati i rapporti che ci sono stati? Ha iniziato dicendo che secondo lei c'è una coalizione con D'Alema, quindi i fatti personali in politica hanno un rilievo modesto. Ce l'hanno, secondo me dovrebbero averlo. Io sono abituato a fare politica anche contando molto sui valori dell'amicizia, sui valori della... Ma vi siete risentiti di recente, no? No, non ci siamo sentiti, ma voglio dire, io con Fini, tranne quell'occasione pubblica, avevo cercato sempre di non polemizzare. Ma ha intenzione di farlo? Certo è che non ho mai apprezzato la scelta che ha fatto. Cioè, quello è chiaro. Politica. Ma ha intenzione di farlo? Ha intenzione di fargli una telefonata, di incontrarlo? Non cambia niente, non è questo l'importante. Non è quello l'importante. Senta, ma questa storia di Tremonti che potrebbe andare nella Lega, lei ci crede? Sì, ci credo, ma spero di no, sinceramente. Mi sembra un po' troppo con faciloneria, sì. Qualcuno è quasi contento. No, Tremonti avrà avuto anche spera di no, però evidentemente se responsabilità, ma è comunque una risorsa, secondo me. Dunque sarebbe una perdita per il PDL se andasse nella Lega. Molti pensano di no. Sì. Io dico che responsabilità ne abbiamo tutti in questa situazione, ma io spero che lui rimanga nel PDL. Senta, ma la Lega, il rapporto con la Lega è ricucibile o no? L'altro giorno Salvini, che è pure uno dei pasdaranni in questo momento contro Berlusconi, eccetera, ancorché maroniano, ha detto insomma, in questo momento le possibilità sono di ricucire un'alleanza, stiamo parlando a livello nazionale naturalmente, anche se poi ci sono delle indicazioni a livello locale per le prossime elezioni che la Lega andrà da sola in molte città. Ha detto no, le possibilità in questo momento sono quasi nulle. Lei che dice invece? Semplice da capire. Intanto sul territorio, dovunque avevamo le alleanze sono rimaste, non ce n'è una, sia dove la Lega governa con noi, sia dove noi governiamo. Poi vedremo adesso le amministrative. No, adesso. Abbiamo litigato. A livello nazionale i rapporti interpersonali sono buoni, abbiamo due posizioni apparentemente diverse, molto più propagandistica la posizione della Lega, che se la può permettere perché c'è chi sostiene il governo. Non so se mi spiego. Sì, però no, apparentemente diverse, molto diverse. Cioè. No, è solo apparentemente, perché anche noi siamo stati critici sui provvedimenti. Cioè, Bossi ha detto per esempio che Tremonti all'estero ha un grande credito, molto più di Silvio. L'ha detto, non credo che l'abbia detto, ma che c'entra questo col fatto? Non c'entra niente, però allora, sulla Lega, volevo darle la risposta sulla Lega. Sulla Lega il primo scoglio saranno le amministrative, poi quando ci saranno le politiche, i giochi si faranno a seconda della legge elettorale, io lo dico sin d'ora, tutto dipenderà dalla legge elettorale, mentre a livello amministrativo, che la legge si sa già qual è. La Lega deve mettersi in testa che almeno da parte mia, per quello che posso valere, qualcosa credo che conterò, soprattutto qui in Lombardia, non sarà possibile fare alleanze solo dove le conviene. Cioè, o un rapporto completo o no, per metterla un po' sulla metafora. Un rapporto equilibrato, che vuol dire non solo dove il candidato è leghista. Se a Monza, che c'è un sindaco di estrazione leghista, riconfermiamo un sindaco di estrazione leghista, contemporaneamente a Como, dove c'è un sindaco del PDL, pretendiamo che la Lega appoggi il sindaco di Roma. Ho capito. Due esempi a caso, Quindi, però voglio dire, non può essere una. Senta, ma lei andrebbe, sì, uno sì e l'altro no. Lei andrebbe ospite al Parlamento Padano o pensa che sia una buffonata? Mi dica la verità, la russa, lei al Parlamento Padano? Io sono andato in posti assai peggiori, come ho. Sono andato persino alle feste dell'Unità, vuole che non vada al Parlamento Padano. Senta, Parenzo, gli vogliamo fare una domanda sulla frase di Berlusconi su Mussolini, però sulla storia. Prima ne avevo un'altra, però. Dimmi, no, la cosa della democrazia minore, ma ha ragione Berlusconi a parlare di fascismo come democrazia minore oppure no? Cosa ha detto Berlusconi? La democrazia minore, il fascismo. Non l'ho sentita questa definizione. L'ho sentito fare invece la definita dire che legge i libri, i diari di Mussolini. Diari di Mussolini, sì. Mi sono sempre chiesto se siano veri. Ah, ecco. Sta leggendo. Ma questo è un altro. Forse sta leggendo diari falsi, dice lei. No, può darsi. Se non sono veri, sono molto verosimili. Io ho letto un po' sono molto. Ed è una costante, guardate che non è un'eccezione. Allora, insomma, sulla democrazia minore, mi dica qualcosa sulla democrazia minore. La russa, la democrazia minore, è così o no? Ma cosa intende? Non ho capito. Non l'ho letto, quindi non so, come faccio a commentare una cosa che non ho letto? Durante il fascismo non c'era democrazia, né minore né maggiore. Ah, ecco, infatti. Durante il fascismo non c'era democrazia, c'era un sistema di rappresentanza popolare di altro genere, diciamo, ma sicuramente non c'era democrazia. Non c'era una democrazia. Delle critiche che abbiamo mosso al fascismo. Ma si può dire, quella, però poi ma si può dire no, aspetti che poi aspetti che c'è la pubblicità, ma si può dire che Monti non aveva consenso mentre a un certo punto Mussolini lo aveva? O non è un paragone che si può fare? Ma insomma, adagio coi complimenti, non dico a chi dei due, sceglietelo voi. Come adagio coi complimenti? Vabbè, abbiamo il giornale radio 800 24 00 24. Siamo qui la Zanzara 1916 800 24 00 24. Parenzo, che è già sul treno Bologna-Padova. O sbaglio? No, se vuoi ti faccio anche sentire il bagno dell'Eurostar del signor Moretti. Aspetta, se vuoi. Aspetta un attimo, la prima intervista. Lei è uno dei funzionari del treno, giusto? Sì. Ecco, lei è un grande sostenitore del governo Monti, ad esempio, no? No. Ecco, quindi siccome le piace molto il governo Monti, le piace anche questa riforma delle pensioni e le tasse nuove che ha messo. No, certo. Ecco, queste sono le prime testimonianze delle maestranze che lavorano sui treni. Benissimo, le grandi inchieste di Parenzo. Io vorrei fare... Lei è giovane, no? Sì. Come si chiama? Alessio, la saluta, signor Cruciani. Chieda al signor Alessio, sì. che cos'è, sì. Un funzionario delle Ferrovie dello Stato? Alessio, cos'è? No, è uno dei signori che tiene pulito questo treno, quindi bisogna ringraziare tutti questi ragazzi che lavorano con contratti. Avete voi, ad esempio? Contratto interinale. Interinale. Chiedi che 7 cosa... Euro. 7 euro all'ora. È una vergogna, però. Sì. Vabbè, io che è una vergogna. Va bene, chiedi che va bene. E Cruciani dice va bene. E lo dica lei, signor Cruciani, che non va bene. Chiedi che cosa ne pensa. Chiedi cosa ne pensa del signor Della Valle. Cosa pensa lei del signor Della Valle che farà dei nuovi trenini ora? Dei nuovi trenini. Non so chi è. Non sa chi è. Benissimo. I titoli del TG3, grazie. Le grandi inchieste di Parenzo. Ma Parenzo, sei con la nuova cornetta? Sì, la cornetta. Beh, adesso detto così può sembrare però una cosa. No, va bene. Sei con la nuova cornetta, come dire, no? Fra poco un collegamento speciale, giù su al Colle, abbiamo un collegamento. Vabbè, restate con noi. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Standard & Poor's, i prossimi mesi saranno un test per l'Italia, torna a salire lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Archiviata la manovra, Monti avvia gli incontri con i partiti per la fase 2 del governo, oggi PDL Terzo Polo varato il decreto mille proroghe. Alfano, ora concentrarsi sulla crescita, Casini lasciamo lavorare il governo, da noi nessuna richiesta, Bersani priorità al lavoro. Mutui per la casa proibiti, le banche non li concedono nemmeno a chi ha due stipendi fissi, inchiesta del TG3 con le telecamere nascoste. Il Natale amaro di Nadia, una delle 300 operai della OMS di Faenza in cassa integrazione da 2 anni, davanti a noi il buio. Per la prima volta kamikaze a Damasco, colpita la sede dei servizi segreti, almeno 40 morti, il regime siriano in crisi accusa Al-Qaeda. La spirale della criminalità a Roma, agguato a Tor Bella Monaca, ha gambizzato un uomo, pestaggio a Trastevere, in fin di vita un giovane, un altro ferito. in attesa di mettere a punto il collegamento con un personaggio veramente importante, il più importante, caro Parenzo, il più importante in assoluto, il più importante in assoluto. Quirinale, hai detto il Quirinale, io fino a quando non lo sento. Al Quirinale ci sono diversi inquilini, diciamo, no? Sì, ci sono tanti inquilini. Diciamo, però la storia di questo ragazzo. Sì, ma perché ti vuoi fissare su, per carità, con tutto il rispetto del ragazzo? La storia di questo ragazzo che è che è al mio fianco e che pulisce i treni per un'agenzia interinale e che viene pagato 7 euro all'ora. Sì, avanti, attacca. È la storia di una di un ragazzo ventenne, giusto? Sì. Che può essere lasciato a casa perché il suo contratto dura un mese, giusto? Sì, esatto. Tra un mese lei può rimanere a casa? Sì. Allora, buon Natale. Buon Natale a tutti. Hai capito? Bisogna cominciare a dirle queste cose. Vabbè, ci sono contratti di un mese. Allora meglio avere i contratti di un mese piuttosto che non averli. Certo, lui lavorava in fabbrica prima. Dove lavorava? Alla zincatura a caldo, quindi, annuale. Anche quindi è meglio lavorare sul treno piuttosto che in fabbrica. Sì. Vabbè, queste comunque sono storie d'Italia spaccati di vita. Spaccati di vita, raccolti da le grandi inchieste di Parenzo. No, ma c'è poco che lo sia da però io oggi, che è l'ultimo giorno di trasmissione prima della. Io quindi saluto e lascio la linea a voi studio. No, ma a voi studio cosa? Devi rimanere collegato. Allora, oggi che è l'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie con la Zanzara, poi riprendiamo il 9 di gennaio, mi raccomando, Mi raccomando, riposatevi, state tranquilli. Riprendiamo con grandissimo slancio e con grandissime novità il 9 di gennaio. Voglio fare riascoltare una cosa, insomma, uno scontro mitico che è andato in onda proprio su queste frequenze, all'interno di questa trasmissione, tra Mimmo Scilipoti e Parenzo. Sentiamo. È l'unico parto anale che nel mondo. Tutti i libri di storia e di geografia, di anatomia, di ginecologia, di ostetrice. E quest'uomo sarebbe un deputato parto anale. Ecco. Comunque, guarda Parenzo, che Scilipoti è ginecologo, credo. Dunque. Scilipoti è un povero ostetrico, ma non sono mai un povero uomo. Ad avere un'altra. Nei libri non sono riuscito, ho fatto una ricerca attenta, l'unico caso che è capitato nel mondo è questo di Parenzo, l'unico caso che c'è stato con parto anale è il Parenzo. Per me, io non rispondo come Churchill, per me Scilipoti di essere è un individuo modesto, Parenzo, non privo di ragioni per esserlo. Parenzo, cristiano significa rispettare gli altri. Parenzo, cristiano significa non uccidere. Parenzo, cristiano significa non togliere la vita a nessuno. Ma capisci di ciò cosa sto parlando? Parenzo, ma tu ti rendi conto che sei un giornalista, che fai un danno che diventa irrimediabile per coloro i quali credono in dei principi e dei valori? Parenzo, svegliati, togliti da là, perché il danno che tu fai è veramente irremediabile. Sei un grande mediocre, ma perché sei mediocre? Perché capisci quello che io ti sto dicendo, ma soltanto per spirito di bottega e soltanto per stupidità devi sostenere l'incontrario di quello che sto dicendo io. Questo è il fatto grave, non che tu sei vuoto, tu non sei vuoto, tu sei peggiore, perché tu capisci di che cosa io sto parlando. Io non ce la faccio, ogni volta che lo sento non ce la faccio, il crescendo non ce la faccio. Un altro credo, mediocre stai zitto, il titolo di questo è mediocre stai zitto. Se non ci fosse stato questo movimento di responsabilità nazionale, il primo tu Parenzo, che non capisci niente di economia e di finanza, saresti stato tu e la tua famiglia in mezzo alla strada. Beh, adesso invece grazie a questo movimento di responsabilità nazionale, il 14 di dicembre Scilipoti ha fatto quello che oggi, ieri e domani dice, ha detto e dirà il Presidente della Repubblica. Stai zitto e ascolta, mediocre. Ieri e oggi. Mediocre, stai zitto e ascolta. Questa non te la ricordavi. Quando uno è depresso bisognerebbe mandarlo. Bene, abbiamo in collegamento Giorgio Napolitano, presidente, no. Buonasera. Il mio augurio vada innanzitutto agli operatori dell'informazione. Ecco. Grazie, presidente. Costanti e attenti testimoni della vita politica e del suo trascorrere. Benissimo, grazie. Grazie. Il mio augurio alle famiglie, base fondante della società civile come società e riferimento continuo del vivere sociale. Ma che dici? Bene, grazie. Per... Sì, tanto non si, possono, non si possono fare domande. Finché il paese, provato da momenti non facili, possa compiere un vero cambio di passo per affrontare positivamente l'anno che ci attende. Bene, Presidente, possiamo interloquire, fare qualche domanda? Buonasera a voi. Grazie. Buonasera, grazie, grazie. Politano, buonasera. Bene, è un onore. Non si poteva fare nient'altro, credo, nessun'altra domanda, era un collegamento rapido. Non so se è ancora in collegamento, una considerazione su chi pensa che il governo Monti sia una sospensione della democrazia, non so se ci sta ascoltando oppure... In riferimento... Sì, dica Presidente. Luciani. Sì, scusi. Presidente. In riferimento all'incarico recentemente affidato al professor Monti, devo ammettere di aver compiuto un marginale errore istituzionale. Eh beh, questa qui c'è la notizia, notizia grossa. Mi dica, Presidente. Sì. Che succede? Stendendo... Cioè, infatti la lettera di incarico, una goccia di caffè ha affidato il governo del paese al professor Monti anziché al professor Tremonti. Lei ci sta dicendo che voleva dare l'incarico a Tremonti e invece poi si è caduto una goccia di caffè sul 3 ed è venuto fuori Monti. Scusi, questo è uno scoop incredibile, cioè una notizia bomba, Presidente. Effettivamente, riguardando recentemente i trascorsi scritti, le note della Presidenza, abbiamo dovuto renderci conto, ma tuttavia tutto sommato non è andata poi così male. Bene, grazie Presidente, grazie. Auguri vivissimi. Grazie. Auguri vivissimi. In collegamento dal Quirinale il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con questa rivelazione bomba. Volevo dare l'incarico a Tremonti, una macchia di caffè. Caffè napoletano. Di caffè, evidentemente made in Naples, è andata a cadere sul 3 ed è uscito fuori Monti e lui ha detto alla fine non è andata poi così male. Beh, i grandi scoop della Zanzara. Ecco, Napolitano, la Zanzara è stato fortissimo. Francesco da Matera, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, a lei, dica. A Parenzio. Dica. Sono sugli attenti per quello che ha detto il presidente Presidente. Tutti siamo Napolitano. Sugli attenti, quando parla Napolitano siamo tutti sugli attenti. Comunque io, scherzi a parte, volevo dire che ieri è stata approvata questa manovra ed è il più grande bluff che l'Italia dal dopoguerra ad oggi ha avuto. Perché? Perché tutti sono d'accordo, anche i sindacati, che in piazza hanno fatto vedere solo 4 persone e non hanno mobilitato niente. Sì. Gli spread sono quelli che sono oggi, ancora oggi. Sì. Quindi questa manovra, io spero che nel 2012 sarà migliore, lo auguro a tutti, non so a cosa ci porterà. E vabbè, quello Francesco. Ah, cosa ci porterà? Non lo sa però nessuno. Però chi paga siamo noi, poveri cristi. Guardi, si può dire una cosa, che in altre occasioni i signori sindacati avrebbero fatto scendere in piazza milioni di persone. Stavolta perché non l'hanno fatto? Milioni di persone, non lo so, ma certamente avrebbero scatenato la Santa Barbara, la famosa Santa Barbara. Io sono convinto che l'articolo 18 verrà rimosso, speriamo, con l'accordo anche dei sindacati. Sì. E sono convinto che al prossimo governo vedremo 3 partiti, PDL, PD e Centro. Insieme. Lo dubito, grazie. Giacomo da Roma, buonasera. Francesco da Matera, un saluto a Matera e buon Natale anche a Matera. Mi sento buono stasera, devo diventare cattivo, fatemi arrabbiare. Giacomo da Roma. Buonasera. Buonasera, dica. Buonasera. No, io veramente volevo dire due parole su quello che si diceva ieri in merito alle riprese che erano state fatte dall'onorevole Barbato sui eventuali attività. Che vuole dire su Barbato? Dica. Volevo dire che sono scandalizzato che c'è ancora gente che cerca di difendere la privacy, la tutela gli onorevoli deputati e gli senatori. Quei palazzi dovrebbero essere di cristallo. Ma che cosa significa di cristallo? La trasparenza non significa che uno può andare con la telecamera. Poi secondo me può fare quello che vuole, io non lo attacco come lo attacca Parenzo. Però non è che la trasparenza debba essere che uno va con la telecamerina e tutto quello che riprende può essere come dire mandato in onda. Ma stiamo scherzando, quelle persone sono state votate dal popolo. E a me che c'entra? Sentire, ma che c'è in quelle persone, altrimenti lasciano perdere. Giacomo, guardi, io sono d'accordo sul fatto che Barbato non ha fatto una cosa criminale come pensano altri. Dopodiché, ma non criminale, sbagliata e va sanzionata. No, sbagliata, no, no, che è sanzionata? Assolutamente no, assolutamente no. Assolutamente no. Se uno infrange un regolamento, non va sanzionato. Non in nome della trasparenza, non in nome della trasparenza assoluta. Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo, sono le 19:29, la Zanzara. Siamo qui, 800-24-00-24, la Zanzara per l'ultima puntata prima delle vacanze, torniamo il 9 gennaio, lo ripeterò sempre, torniamo più combattivi di prima, caro Parenzo, più ma in forma di prima, a combattere tutto l'anno, per tutto il 2012. Carichi a pallettoni! Io vi voglio ricaricare con uno dei cult dell'anno, sempre con lo Scilipoti che invoca... Sì. No, che invoca Parenzo, redimiti. Sono arrivato. Riprenditi. Sei fuori dalla logica di Cristo. Parenzio, sei fuori dalla logica di Cristo. È stato uno dei momenti più belli della Zanzara, insieme agli scontri con il signor Saia. Poverino, ci salutiamolo dall'ospedale, poverino. Ma perché? Andate in ospedale, il signor Saia? L'ospedale psichiatrico, ovvio. Ogni tanto uscivo, adesso no, è Natale. Cosa? Ma non è all'ospedale psichiatrico, il signor Saia. Ma uno che dice quelle robe lì, se non lo è, è gravissimo. Ma immagino che sia lì, in terapia costante. Ma guarda che poi chiama, non lo so, non solleticare. Lo tengono lì, no, lo tengono lì, perché anche Natale qualcuno va lì, si mette, gli dà una minestrina col burro, gli dice stai calmo, sì, ma è vero, sei un fascista, sì, va bene, poi fai il colpo di stato, stai sereno, sì, gli zingari li mandiamo via tutti, stai sereno, lo accarezzano e gli dicono queste cose sulla testa, così stai calmo, sai, sì, stai buono, sì, gli zingari sono cattivi, via i negri, via i froci, sì, stai calmo, Scilipoti e Parenzio. Chi è cristiano non può amare la morte, Parenzio. Non capisci niente, Parenzio. Sei fuori dalla logica di Cristo. Un cristiano non ama la morte. Un cristiano ama la vita. Un cristiano cerca di redimere. Un cristiano cerca di riportare sulla retta via. Parenzio, sai che cos'è la Bibbia? Sai che cos'è il Vangelo? Parenzio, svegliati. Cerca di essere qualcosa veramente di costruttivo per i tuoi figli. Non parlare di cristianità quando non conosci il significato della parola. Qui siamo al top. Io non ho mai voluto parlare di cristianità, mai. Va bene, Angelo da Bari, buonasera Angelo. Yeah. Ah, Angelo Pare Bianco? Ottimo, no, ottimo. Angelo è un ascoltatore da Bari. Vabbè. Angelo, dica. Pronto, buonasera. Bada. Sì. È il regalo più bello di Natale che potevo avere, parlare con voi. Ha detto. Sono 3 anni che vi ascolto, valigie, c'ho da dire 1000 cose, dico 2 cose solamente, vi dico. A te, anche da te, che ti pistrelli di Parenzo. Come, scusi? Io vi ascolto tutti i giorni. Sì. Ma come ha detto questo? Non lo so. Cosa. 3 mesi fa, testa di pipistrello. Testa di... 3 mesi fa, com'è? Avevi avuto com'è? Avuto la russa. Sì. Gli ha sbattuto il telefono in faccia. Dopo che ti ha sbattuto il telefono, sì, in faccia, ne avete dette di cotte di crude. Beh. Oggi invece, siccome quando va chiamata De Cruciani, non mi fare domande impertinenti, se no ti sbatto di nuovo il telefono in faccia. Ma che ne sa lei? Allora, io non c'ho manco. Ma io non ho nemmeno parlato con la russa. Ma non ho mai parlato con la russa oggi. Vabbè, l'ora d'aria, dai. Come il solito tuo fare, come la pecorella, gli hai fatto, sì, tutte le domande gentili. Vabbè, questa allora è la d'aria, prima, dai, cosa che ti dico. E l'ora oggi d'aria, potevi, sì, dimostrare, d'aria, di avere una palla, non 2 palle. Sì, vabbè. L'ora d'aria. E l'altra cosa che ti dico, la seconda cosa, e poi chiudo, ti tolgo il fastidio, sì, è che ti auguro, sì, 100 anni di vita. Sì. Beh, però grazie. Che cadi in disgrazia economicamente, tu e che da capo di pipistrello. Così veramente capisci che significa perdere lavoro e vivere con 2 lire in tasca. Lei è numero 1. Saluto e fai buon Natale, tu e capo di provolone. L'abbraccio fortissimo, Angelo. Cosa ha detto questo? Testa di provolone, testa di pipistrello. Angelo? Angelo? Sì. Che significa testa di pipistrello? Che significa? Il capo di pipistrello, io l'ho visto a Canale 5 l'altra volta, me lo immaginavo così, la capo di pipistrello. Ma che vuol dire capo di pipistrello? Scusi, Angelo. Come, dai, che significa il pipistrello? Non sai cos'è un pipistrello? Sì, so cos'è il pipistrello, ma capo di pipistrello, francamente, non lo so. La testa di un pipistrello, già. Chi? Ma chi? Parenzo oppure? Parenzo, tu c'hai il testone del bisonte, lui invece c'ha la cap du pipistrel. La cap du pipistrel, capito? Parenzo, hai imparato una cosa nuova oggi, hai la cap del pipistrel. Fatti curare, tesoro, adesso per Natale fa male. Angelo? Bene. Ha sentito Parenzo o no? Fatti curare. No, non l'ho sentito. Beh, dillo, a me fuori. Non mi interessa quello che dice Parenzo, non ha, lui è un falso comunista. Un falso comunista. Critica la gente che sta. Scusi, sta Angelo, bene. Perché. Angelo, la malattia mentale è mutuabile, eh? Cioè, c'è la mutua, la passa in Ultramone, un bacio a mare, pare, battate in Ultramone, così sto in culo, pare. No, scusi, no. Angelo, scusi, però lei deve offrirci una traduzione in simultanea, abbia pazienza. Se mi ripara con i Qual è la traduzione? Volgare. Ho capito, ma non lo può dire in barese lei, la volgarità e poi tirarsi indietro. No, lui l'ha capito, lui lo ma capisce. Ma non lo capisce il barese. No, lo capisce, Parenzo, no, lo capisce. Solo una cosa. Scusi, lo può ripetere bene così? Poi, innanzitutto, Angelo, chiuda la radio perché altrimenti non sentiamo niente, si sente tre volte. Chiuda la radio alle sue spalle, davanti a sé. L'ha chiusa o no? Sì. Allora, ripeta la cosa in barese, così capiamo tutti e la sottoponiamo a qualche traduttore simultaneo. Ho detto, vatta in Ultramone, bacia a Marco, di Istanbul. Allora, no, com'è la storia, scusi, la ripeta un attimo. E che fa, ora mi prendi tu per il culo a me. Beh, quello mi pare evidente, però, no, cammina pure tu, capo del mondo, cammina, capo del mondo. Quello è il capo di pipistrella e tu sei il capo del mondo. Scusi Angelo, la può ripetere? No, io lo dico per lei di ripetere questa cosa, così noi questo estratto della zanzara. Allora, mo vuol dire che l'ultima volta. Allora, andatevi a fare Nutramon, tu e lui, a braccetto, terra la lance, Kudistangul. Oh, bellissimo, oh, adesso finalmente parole chiare. Parole chiare, allora, comprensibili. Allora, a chi ha la risposta, lo ha letto. Tu e lui, e per godere mettete il dito in culo, va bene così? Va bene. Oh, va bene, bene. Angelo, bene. Chiedo scusa, a che ora la riportano in branda con e le fanno la solita dose di 50 millilitri di liquido? Ora la ambulanza, il camice bianco, Parenzo, Camin, Parenzo. No, ma lei la devono negare al letto, che camice bianco, la lei ricorda di oggi vuole. Ha letto le cose di facile, ma scusi, ma io ho paura che il sistema sanitario lì non funzioni molto bene, perché se questa persona è in libertà sono problemi, eh? Io pensavo che in Puglia avendo Parenzo con queste chiacchiere, la gente in libertà, diribata, ormai stai sereno che adesso arrivano subito, ma ci sono dei familiari in giro, magari cambia vocabolo, che ormai ha rifatto la muff, tu e lui. Hanno ragione la gente quando dice che hanno ragione la gente, ha ragione, perché lo hanno ragione la gente, lei dice. Io non hanno ragione che siete perché secondo me che ascolto da tanti anni questa trasmissione, sì, prima era bella, piccante, ci sarebbe da sarebbe da porsi qualche domanda. Comunque no, ascolta quindi ti faccio la domanda, ma te la dico io la risposta, sì. Prima era combattente. Poi l'endurage di Berlusconi è venuto, ha detto Cruciani così non va bene, sì. Quello mi sta di dire Ignazio La Russa, Cruciani se mi fai un'altra domanda di quelle ti sbatto il telefono in faccia. Aspetti un attimo, aspetti Angelo. Controcampo. Sì, sicuro. Devi comportare bene. Sicuro, Angelo. E allora sei diventato una pecorella. È successo proprio questo. No, no, Angelo, resti lì perché abbiamo una sorpresa per lei. Perché la persona che ha appena evocato, siccome lei l'ha già chiamato un'altra volta in causa, l'abbiamo richiamato. Allora, La Russa, di nuovo buonasera. Buonasera, Luciani. Buonasera. Senta, ha sentito questo ascoltatore? Dice perché che lei, io e lei ci siamo messi d'accordo per l'intervista, per le domande più. Ma non scherziamo, figuriamoci se mettiamo in piedi un circo Barnum come questo, ma assolutamente no. Siamo persone corrette e responsabili. Ha capito, Angelo? Abbiamo visto circhi Barnum quest'oggi con il popolo della libertà. Delle persone corretto abitava giù a casa mia, corretto Domenico, sì. Ci hanno dato 30 anni di carcere. caro amico delle Puglie, siamo corretti tutti quanti, abbiamo già visto altre volte scorrettezze, ma non è questo il caso. Angelo, scusi un attimo, cos'altro voleva chiedere alla Russa? Niente, che alla russa niente, che gli devo chiedere alla russa. E che ne so? Lo ammiro che è una persona come tutti gli altri, che si è intaccato nella tasca un parecchi soldi e sta bene lui, Cocis, Curalt, Gerolimo, il figlio, Capindiana, e si sono sistemati loro, hai capito? Vabbè. Beh, io invece Crugiani, devo lavorare come uno schiavo, invece bene, lui ha avuto la possibilità va bene, e si è messo bene, per va. Quello lo ammiro. Passare gli auguri di Natale. Che vuole fare? Come? Che vuole fare? Siamo tutti più buoni. Vuole fare gli auguri di Natale, la russa, scusi. Ma la ringrazio, di intanto il piacere di risentirci prima ancora. Del collegamento di prima, dicevo questo signore. Buonasera Parenzo, buonasera Parenzo. Buonasera onorevole sempre la russa. Sempre un po' pedicchino però. La russa, simpatico, grazie. Vabbè. Un augurio di Natale di cuore, A tutti quanti, sì. I cittadini, ai nostri elettori, ai nostri... Sì. Vabbè, ma scusi. Anche, Luciani, ai militari che sono impegnati Nelle missioni all'estero. Ma è più ministro lei? Che c'entra se non è più ministro? Può fare sempre gli auguri di Natale, sì, ai militari, non c'è niente di strano. Anche perché non ritengo che sia il posto sia adeguatamente ricoperto. Come non pensa che sia adeguatamente ricoperto? C'è l'ammiraglio di come si chiama? È un generale addirittura. Di Paola, là. Un dipendente, Crociani, un dipendente. Cioè, un dipendente di cosa? Dell'amministrazione, dice lei? Del ministro della difesa che abbiamo ampiamente visto all'opera, sto parlando del sottoscritto. Ah, lei dice un suo dipendente che è poi diventato ministro, in questo come senso. Portavo la mimetica, io devo dire che non la portava nessuno, diciamocelo. Vabbè, questo sicuro. Ricordo un po' anche il bestemmia, no? Sono stato io a rinnovare il parco dei mezzi Lince. Anche le cose l'ha fatte lei, anche le Maserati. I fucili mitragliatori. Anche le Maserati l'ha portate lei, però, al Ministero della Difesa, se non sbaglio, no? Lì c'è stato un equivoco. Sì, certo, c'è sempre un equivoco. Comunque, stato un equivoco. Caro La Russa, dopo gli auguri, grazie. Grazie a voi, Cruciani e Parenzo, a presto sentirci, grazie. Grazie, 30 secondi, torniamo subito. A presto sentirci, va. Eccoci qui, 800 24 00 24, il signor Elio da Milano, buonasera Elio. Sì, buonasera Cruciani. Come andiamo? Sei un grande, guarda, c'ho poca voce perché guarda, io c'ho una catena di lavaggi e mi faccio un mazzo dalla Madonna. Ma dove? Scusami. La catena di lavaggi dove? Scusa. A Legnano e in zona qua, quando ti do il numero vieni a trovarmi, comunque. Vabbè. Ti volevo dire, dimmi. A parte la tua bella trasmissione, io Radio 24 dalla mattina alla sera, bene. Sempre quella. Vabbè. Allora, io dico una cosa, noi abbiamo una crisi generale, soprattutto in Italia, ma perché si attaccano sempre ai soliti pensionati che vengono 800-900? Allora, arrivo al dunque, io leggo Mario Giordano, le sanguisughe, Ciampi, Scalfaro, Lamberto Dini, Amato... 40, 50, 60 mila euro di pensione. Adesso non esageriamo, 30 mila, no? 60 mila al mese, Cruciani. Attenzione. Allora? Io quello che dico, io se mi metto in politica. Allora, data la situazione, faccio un decreto legge e non mi dica che è un diritto acquisito, perché il mio diritto acquisito un altro anno potevo andare in pensione e me l'hanno tolto. Comunque, io faccio un decreto legge, dopo mi dica se è anticostituzionale. E che ne so, le pensioni, Le pensioni, data la situazione, le pensioni, il massimo da pagare, sono 3.000 euro. Anzi, Ciampi, Scalfaro e Lamberto Dini ti obbligo a darle in beneficenza dopo. Allora, il decreto legge, il massimo delle pensioni che si può pagare oggi, che poi l'INPS non sta male, lo sappiamo, è 3.000 euro. Basta, il tetto è questo. Fra 5 anni, Cruciani, andiamo bene, quasi a prendere... 40.000, ti ridò ancora 40.000 e tutti quei soldi che guadagno, faccio la ridistribuzione alla vecchietta che prendi 500 euro, li do, che riparte poi anche tutta la ripresa economica, non posso tirargli sempre chi prende 1.000 euro al mese. Allora? Hai capito quello che voglio dire? No, non ho capito. Io non ho capito niente, comunque. Cioè bisogna togliere le pensioni alte. Bisogna tagliare lì, io lì ci mi incateno, la prima casa, prima devo tagliare quelle pensioni lì. Cioè è giusto che uno prenda 40.000 euro di pensione al mese, mi risponda Cruciani. Ma no, ma certo che no. C'è una tassazione ulteriore del 15% in questa manovra. mi devono dire cosa hanno pagato per prendere 30-40 mila euro al mese. No, ma non c'è dubbio che quella sia una hanno fatto i boiardi di Stato, i sì, famosi cioè, boiardi sono, di Stato. Sono pensioni anche che magari è solo il 5%, chi prende 1200 euro è l'80%. Cosa? Però l'80%? Ci sono, ha fatto quella tassa lì, 200.000 euro, ne prendi 2,10, ti tasso il 15% dei 10.000. Ma scusa, ma io ti tasso il 15% da 0 a 210, sbaglio? Sì, no, ma guardi, che bisogna, intervenire anche sulle pensioni molto alte, certo. Non c'è dubbio che questo intervento sia troppo timido, pure, perché secondo me i diritti acquisiti non esistono. Grazie, Elio da Milano, Alfonso da Napoli, buonasera. Buonasera, salve, senta, sono felicissimo di arrivare a questa trasmissione, ho provato varie volte. Va bene, Alfonso, però vada al sodo, su. Sì, allora, innanzitutto volevo dire, io non ce la faccio più, sto odiando a morte tutti i politici, e non fate il fatto quel finto buonismo, perché penso che a tutti ci danno un pochettino i coglioni, visto e considerato, come diceva appunto il signore di prima, che loro devono guadagnare tutti i soldi e poi chiedono a noi sacrifici. Io faccio una domanda solo, cortesemente. Come fanno a sapere loro la crisi se loro prendono 20.000 euro al mese? Che ne sanno loro delle difficoltà che si affrontano tutti i giorni? Mm. Io sono sposato, ho una moglie e ho un bambino. Sì. Lo fa quanto guadagno la settimana? Metto sì. 50 euro e mi va bene, lavoro tutto e allora? Il giorno. E non mi lamento. Ammiro. E dunque? Problema. Allora lei mi deve dire, come fanno a sapere loro come si fa andare avanti se guadagnano 10, sì, però lei perché 10, si vuole sfogare vuole sfogare sapere, perché lei vuole sfogare la sua come dire perché le sue difficoltà altro. Le sue ha difficoltà nei confronti della classe politica perché ha ragione cioè non lo so ha ragione mi sono sconcertato ma sconcertato da che cosa dal fatto che loro guadagnano questi soldi e vogliono sempre danno i soldi cioè entrano la benzina. Mi scusi, lei è sconcertato dalle tasse. Le guerre varie che si fanno, no? Le guerre varie che si fanno in Iraq, questi paesi qua. Ma che si fanno a farlo? Si fanno per la benzina. O veramente crediamo che l'America e l'Italia vanno a liberare l'Iraq da Saddam Hussein? Va bene, grazie Alfonso, grazie. 800240024 è con noi Giorgio Stracquadanio, buonasera. Ecco, ci mancava. Buonasera a loro. Ma che significa ci mancava? Ogni volta. Mancavano i fuochi d'artificio, mancavano. Ma che fuochi d'artificio? Ma è un ex falco Stracquadanio, è diventato buono. Perché Beh, è diventato buono da qualche tempo a questa parte, molto buono. Mica sono stato mai cattivo. Beh no, cattivo no, però insomma voglio dire, no. Combattente. È stato uno dei grandi protagonisti di questo 2011, diciamo la verità, soprattutto a livello oltre che politico, anche televisivo e mediatico, uno dei grandi protagonisti in tutto e per tutto. Questo mi lusinga. Beh, è così per alcune posizioni prese, ma anche per essere stato un grande combattente televisivo nei vari talk, oltre che radiofonico qui alla Zanzara e altrove, in sostegno delle proprie idee, è così. Certo, senta, ma non è che nel 2012 sarà diverso. Beh, insomma, però ho cominciato negli ultimi mesi un po' di. Senta, ma insomma, alla fine lei è uno di quelli che non no, ha votato. No, sono negli ultimi 20 giorni ho volutamente escluso la mia presenza dal video e dall'audio per evitare la sovraesposizione. Ho aspettato tutta la fase della crisi di governo fino a quando non siamo arrivati alla prima iniziativa del governo Monti. E il governo Monti, che lei all'inizio non dico che ha salutato con favore, ma insomma non era assolutamente a cui ho dato la fiducia. Ha dato la fiducia, però poi non ha votato adesso la manovra, no? No, se non sbaglio. Non ha votato né la fiducia né la fiducia né la manovra. Cioè, prima non ho capito bene. Quindi è all'opposizione ora? Possiamo dirlo? Non è all'opposizione. No, sono stato contro questo provvedimento, è abbastanza semplice, no? Beh, però anche la fiducia. Il governo Monti si è presentato sì. con delle credenziali, doveva realizzare sì. quello che era scritto nella lettera della BCE sì. e nella manovra non c'è di traccia. Doveva realizzare. Beh, sulle pensioni un po' di traccia c'è, Beh, diciamo, siamo molto indietro da quello che doveva fare. Un po'. Il punto A, che era per esempio quello della liberalizzazione, privatizzazione dei servizi pubblici locali, zero, che sarebbe la prima botta ai veri costi della politica, si è letteralmente dimenticato di affrontarlo. Sulle pensioni ha fatto una soluzione un po' alla Don Abbondio, ha rinviato il problema più in là, perché se lei ricorda con la riforma Maroni c'era addirittura un incentivo economico per chi rinunciava alla pensione di anzianità, sì. cioè veniva dato un terzo in più, cioè i contributi in busta paga. In questo caso hanno messo una penalizzazione dell'1% per ogni anno anticipato rispetto all'età di vecchiaia. Allora lei si rende conto che se con il 30% di incentivi... C'è troppo timida la Fornero pure sulle pensioni, troppo timida. Le pensioni di anzianità sono un privilegio che andavano semplicemente cancellate, mantenendo soltanto la possibilità di andare in pensione anticipatamente per chi ha svolto lavori. Per cui mi faccia capire, il governo Monti aveva una grande possibilità e invece su che cosa si è impantanato? Ha fatto tasse, cioè per fare quella manovra doveva aggredire il debito. Non mi dica che ci voleva pure suo zio, come ha detto Bonanni. No, il zio di Bonanni non lo conosco, però voglio dire, poteva anche essere... Lei l'avrebbe fatta tranquillamente, Stracquadanio l'avrebbe... Io avrei fatto una manovra impostata diversamente. Avrei aggredito il problema. Il nostro problema... Cioè la poteva fare pure lei, non lo zio di Bonanni, anche lei la poteva fare tranquillamente. Io delle idee le ho date e delle indicazioni le ho date. E guardi, un paese che ha il 52% di spesa pubblica, intermediata dallo Stato, è un paese in cui la ripresa economica non c'è. Tutti hanno detto che la manovra è recessiva. Questa doveva essere una manovra per lo sviluppo. E perché Berlusconi? Berlusconi continua allora ad appoggiare il governo Monti? Perché non c'è alternativa? Io, guardi, ritengo che il presidente Berlusconi abbia preso questa decisione per evitare una crisi di governo immediatamente dopo un'altra, ma non ritengo che dal mio punto di vista, cioè da quello di chi ritiene che le politiche pubbliche di questo paese devono cambiare radicalmente, si potesse sostenere questo provvedimento. E infatti dalla ripresa... Però Stracquadano, mi dica una cosa, adesso abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo, però la cosa fondamentale, lei è stato, non dico un entusiasta, ma uno di quello che ha detto, serve in questo momento, serve il governo Monti. Subito dopo si è un po'... ho detto serve una fase politica che consenta di aggredire i problemi strutturali. Ho capito, però... Se per fare le manovre con le tasse ci tenevamo tre Monti. Ah, ho capito. Abbiamo pubblicità, torniamo subito. Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, in collegamento dal treno per Padova, David Parenzo. No, sono già arrivato a Padova Urbe. Sei già a Padova Urbe, ma hai questa voce così dimessa, questa voce così... No, dimessa, perché direi che non si può urlare in tutti i luoghi pubblici dove ci si loca. Mi ha sconvolto il barese, come si chiama? Il pugliese. L'amico pugliese, va bene, è stato divertentissimo, amico pugliese. In collegamento da Milano, invece, da Milano, Giorgio Stracquadanio, deputato del PDL. Ci sta spiegando perché la mattavo che le cose dette nel corso programmatico fossero almeno iniziate. Invece abbiamo avuto una manovra che è stata fatta dai soliti noti, cioè il capo di gabinetto Fortunato, il direttore dell'Agenzia delle Entrate in Befera e il direttore generale, oggi vice ministro, Grilli. Allora, voglio dire, che è cambiato? Niente, letteralmente niente. Ma Tremonti e la Lega c'è qualcosa di vero secondo lei? Che cosa? Tremonti e la Lega c'è qualcosa di vero? Guardi, c'è stato qualcosa di vero, non so cosa ci sarà di vero. Vero c'è stato che entrambi hanno impedito di fare quelle due riforme che avrebbero potuto riattivare il meccanismo economico. Le pensioni? Le pensioni di anzianità e la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. L'abolizione delle province, tre cose che se avessimo fatto e per te in tempo utile non sarebbe più... Dunque, se la responsabilità principale da cambiare il governo Berlusconi non sta in Berlusconi, ma sta nella Lega e in Tremonti, che sono... Sono, le dirò di più, i più accaniti sostenitori di Equitalia. Vabbè, perché Equitalia non è un'associazione criminale, Stracquadanio. Hanno messo sull'astrico alcune migliaia di imprese. Dunque, sono criminali? Con atti che sono stati di tipo estorsivo. Estorsivo, addirittura? Estorsivo, le spiego come funziona. Ma guardi che tirano le bombe ad Equitalia, Lo so, e quindi questo non sono affatto contento. Però è una reazione normale, dice, o no? No, non è una reazione normale, è un inserimento di elementi di terrorismo in un contesto di... comunque di tensione sociale che quella azienda di Stato e l'Agenzia delle Entrate hanno provocato. Se io vengo da lei, che è un'azienda, e le dico, le contesto evasione fiscale per tutti i soldi, per 100 milioni di euro, lei mi dice no, io faccio tutto regolarmente, e io le dico, ma intanto avvalendomi dei poteri che ho, le blocco mezzi per 100 milioni di euro, cioè le blocco l'impresa. Cioè questa è estorsione? Lei mi risponde, cosa devo fare per evitare che mi blocchi l'impresa? Me ne paghi 15 e la chiudiamo qua. Lei come la chiama? E che ne so? Come la chiamano a Palermo, una cosa così? Me lo dica. Pizzo la chiamano. Pizzo addirittura? Addirittura. Pizzo. Questo è pizzo di Stato, perché? Perché il contribuente deve poter avere il contraddittorio. Lei lo sa che sulla maggior parte dei giudizi delle commissioni tributarie, cioè dei giudici tributarie, nell'80% lo Stato perde? E questo che significa? Ma allora... Che aveva una pretesa ingiusta. Ma allora sia conseguente, scusi, se lei parla di pizzo, al straguadagno pizzo come Zamparini. Al pizzo ci si ribella. No, mica, no, non è mica, non è mica un delitto essere d'accordo con Zamparini su questo, tutt'altro. Senta, ma vedo che sono d'accordo, ma infatti io lo sostengo e spero di incontrarlo presto. Ma che bisognerebbe fare? Che so, un assedio permanente a Equitalia, magari Pacifico, no, mettere le tende lì dentro. Bisogna riportare le regole della giustizia tributaria alle regole normali. Noi abbiamo fatto. Mai nessun governo. Però recuperano un sacco di soldi, straguadagno, recuperano un sacco di soldi, diciamo la verità. Perché anche a Palermo. Chi? Quelli del pizzo recuperano un sacco di soldi. Beh, lei sta paragonando Equitalia alla mafia. Lei sta paragonando Equitalia alla mafia che chiede. Che il metodo è estorsivo. Ho capito, però voglio dire, non è la stessa cosa. Cioè, voglio dire, se uno è estorsivo. No, sono soldi dovuti. Ho capito. Se io le dico che. Allora, scusi. Però scusi, straguadagno. Diciamo che la giustizia manda in galera l'80% di persone che poi vengono assolte. Diciamo che è un paese civile. Ho capito, ma l'80% mi pare un po' esagerato. Comunque il problema è molto semplice. Se lei dice che sono incarcerati in carcerazione, detenuti in carcerazione preventiva, moltissimi vanno assolti. Se lei dice che sono un gruppo estorsivo, in sostanza, che fanno dell'estorsione, che chiedono io il pizzo, dico che ci sono leggi che sono contro le regole dello Stato di diritto. Benissimo. Ci abbiamo dato al fisco potere in mezzo. E dunque bisogna scioglierla, Equitalia. Bisogna. Per esempio, no, bisogna riportare le cose a una normalità. E che ci vuole dunque? Che per ci esempio, vuole? Togliere l'inversione dell'onere della prova. Bisogna dimostrare che io abbia evaso. Oggi sono io a dover dimostrare di non aver evaso. Sì, ma Equitalia poi si parla anche di cartelle esattoriali, per multe, per cose. Certo, non è che c'è. Certo, ma bisogna. A lei pare che per una multa di 63 euro abbiano portato via la casa a un signore? Ma adesso è successo anche questo. L'hanno pubblicato i giornali. Una cartella esattoriale di 63 comunque, euro. Comunque mi pare di capire che lei non si strappa i capelli se Tremonti va con la Lega, questo è il punto. No, io dico che nel momento in cui durante il nostro governo la Lega ha sostenuto almeno ha sempre sostenuto a spada tratta Tremonti, sì, anche quando veniva contestato all'interno da parte del PDL, cioè, e con questo sostegno ha impedito riforme. E questo l'abbiamo detto, ma lei non si ha armato il fisco di armi improprie. Benissimo, allora distruggendo la base elettorale del centrodestra. Se lei fa poco, ma non mi pare, ha fatto poco. Però se Tremonti va, lei lo dà per scontato che Tremonti è praticamente fuori dal PDL. Ma non mi interessa. È un argomento che non mi interessa. Io volevo che Tremonti fosse sostituito come ministro. E invece abbiamo dovuto far cadere un governo per non aver più Tremonti ministro. E dopodiché Monti che cosa fa? La stessa cosa che faceva Tremonti. Con in più il fatto che Tremonti va in televisione e lo sbeffeggia. E dice io avrei fatto la manovra con meno tasse. Sì, cos'è? Che era la commedia dell'assurdo. Eravamo a UNESCO. Lei lo sa. Meglio perderlo che trovarlo, insomma. Bene. Perderlo che trovarlo. Guardi, io sui testi di Tremonti ho studiato. E nel 94 mi scrisse un testo sul federalismo fiscale che prevedeva l'abolizione delle province. E ce l'ho a casa, ce l'hanno tutti, è documentato. Dove diceva che le province sono un ente totalmente inutile in una visione federalista, anzi erano un Poi? Poi ha difeso la Lega che difendeva le province. Senta, ma che futuro ha Tremonti secondo lei? Dal punto di non vista lo politico. So, non mi interessa. Non le interessa? Ma come non interessa? A me non interessa, mi turba il suo. È un avversario. Oggi è stato un avversario di coloro che lo hanno sostenuto e eletto. Ma allora, diciamo, una trasformazione per ragioni di dinamica di potere e con l'intenzione di accreditarsi in Europa. Lei si ricorda Tremonti quando diceva che l'Europa era un male per i chilometri di normativa certo, che faceva e le scendeva nei teatri, faceva vedere il rullo di norme europee. E invece in questo questa legislatura sembrava che lui fosse l'Europa, quando questa legislatura ha mostrato tutti i limiti della governance europea e della banca centrale. Cioè, noi siamo al paradosso. Tremonti è stato uno Zelig della politica italiana, cioè ha vestito diversi panni in funzione della tendenza dominante. Zelig della politica italiana. Senta, ma mi dica una cosa sul signor Minzolini, che fra poco dovremmo avere i nostri microfoni, tra l'altro. Possiamo chiamarlo dottore? Eh? Possiamo chiamarlo dottor Minzolini, no? Perché? Beh, insomma, io la chiamo. Dottor Minzolini, cacciato per motivi politici oppure era grave? A lei cosa sembra? E che ne so, me lo dica lei. A me sembra che ti hanno sempre contestato il modo in cui l'abbia fatto il telegiornale. E dopo sono riuscito ad acchiappare una querela, diciamo, che riguarda i costi del. Una querela che riguarda i costi, che era già stata sanata, con una restituzione delle spese che peraltro gli erano state concesse nel contratto, sì. E quindi, come dire, un pretesto. Perché Minzolini ha fatto un telegiornale che era, come deve essere il TG1, governativo. Beh, un po' più governativo degli altri, forse, leggermente più governativo degli altri. Che male c'è? Perché quella di Chiotta, secondo lei com'era? Beh, oddio, era un po' più istituzionale, poi magari. No, mi permetto di dire una cosa, che Minzolini con molta chiarezza ci ha messo la faccia, cioè ha detto da che parte stava, mentre invece ci sono stati direttori dei telegiornali che pretendevano di essere apparentemente super partes e che infilavano molto commento nei servizi. Senta, mi dica una cosa invece, parte Minzolini. È meglio un direttore che fa un editoriale e prende una posizione di un direttore che infila in modo, come dire, subliminale commenti. Senta, ma oggi il PDL che cos'è? Il PDL oggi è un partito in cerca di un'identità. Cioè non c'è oggi il PDL? A mio avviso non esiste oggi. A mio avviso, come dire, il PDL era unito intorno alla leadership di Berlusconi nel momento in cui oggi quante anime ci sono? 10, 15, gruppetti, gruppettini, almeno 3. 3 con gruppi, gruppettini, cioè insomma sto PDL che è diventato una sorta di purtroppo oggi è un aggregato, non un partito, un aggregato indistinto, con molte distinzioni, e che però non, secondo me, dovrebbe ritrovare l'identità nella sua nei suoi programmi politici e nelle sue prospettive. Nella questione della manovra, secondo me il negoziato è stato condotto al ribasso, perché mi rendo conto che siamo di fronte a un governo che è negoziale, e quindi non possiamo pretendere che attui tutto quello che noi desidereremo che attui. Però in un governo negoziale si cede su qualcosa e si tiene su qualcos'altro. Dire non vogliamo la patrimoniale, ma discutiamo su ICI. Ma qui oggi nessuno è in grado di patrimoniale. Ma qui nessuno oggi è in grado di discutere su nulla, questo è il punto. Cioè, hanno fatto sta manovra. Non è vero, perché se lei ha visto l'articolo 18. Ma sì, su piccole cose hanno discusso. Il ministro Fornero ha finto di alzare la palla. Ma quello non lo vuole nemmeno il PDL, ma non lo vuole nemmeno il PDL la modifica dell'articolo 18. Ma voglio dire che la strategia politica di alcuni ha consentito evitare direttamente la discussione. Ma sulle tasse il PDL doveva fare le barricate e non è successo niente, non è stato modificato nulla, piccole cosette, bravo, sulla prima casa, ma cosettine, bravo, eccetera. Bravo, sono d'accordo con lei. Le barricate bisognava fare. D'accordo. Se no non perché ho votato contro? Lo so. Va bene. Anche in polemica con il mio partito, che non è, perché è un errore strutturale dire non vogliamo la patrimoniale, ma esca dal PDL allora. Ma sia calmo. Ma esca dal PDL e faccia un suo movimento con i suoi parti. Perché non si può fare una battaglia interna. Sì, può anche fare una battaglia interna, certo, si può fare una battaglia interna. Perché siccome no? Non sono stato solo a votare, io ho votato contro la fiducia e contro la manovra, ma ben una trentina di miei colleghi non hanno votato la manovra. Allora, possiamo iniziare una battaglia interna? No. Abbiamo la pubblicità, grazie a Giorgio Stacquadani, a presto, buone vacanze, buonasera. Siamo siamo qui, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, sempre la Zanzara. Ultimi 45 minuti, ma manca ancora tantissimo, meno alla male, fine meno di quest'ultima male. Puntata, prima delle sentirò vacanze. Sentirò la tua mancanza. Armando da Teramo, buonasera. Perché io ti voglio bene. Armando da Teramo. Buonasera. Dica. Siamo qui. Vada. Niente, io ho chiamato perché volevo sapere se Cruciani, sì. Parenzo, sì. Sì? Se, innanzitutto faccio i complimenti alle Cruciani. Sì, dica. Sì. Se Parenzo vuole iscriversi presso la nostra associazione, la Arcigay. Sì. Scusi, volevo sapere se perché lui dovrebbe iscriversi all'Arcigay? Potrei farlo senza problemi, ma credo che sia gay, ha dimostrato così, l'ho visto in più occasioni, anche in televisione. No, veramente non è gay, comunque insomma. Comunque non la reputo un'offesa, anche perché abbiamo noi due elenchi presso la nostra associazione. Cioè gli attivi e i passivi, cioè quelli che lo prendono, sì, e quelli che lo danno. Volevo sapere, sì, lui in quale ruolo si vede di più. Guardi, caro e gentilissimo ascoltatore, di una volgarità e di una pochezza inaudita, ma è il bello del mondo della Zanzara. Cioè io, scusa un attimo, David, scusa, io difenderò le sue stronzate, capito? Io difenderò il suo diritto a dire stronzate, poverino, anche alla vigilia di Natale difenderò il suo diritto a dire stronzate. Scusi, signor Armando, che associazione è? Un attimo, non ti scaldare per così poco. Armando, scusi un attimo, lei è, non ho capito, ha la tessera dell'Arcigay? Noi siamo dei gay e siamo riuniti presso un'associazione. Ma non ci credo, lei sta facendo il cretino, su. Ma io la prendo volentieri. No, perché si fa dell'ironia, io lo prendo volentieri la tessera dell'Arcigay, ma non perché lo sia, perché sono orgogliosamente eterosessuale, per quanto la parola orgoglioso possa sembrare superflua. Mica vuole discriminare i gay, scusa. No, anzi, ma lei ha sorelle? Sì. Ecco, chieda a sua sorella, va? No, vabbè, adesso questo... Adesso è lei che sta diventando un po'... Non so, questa... le ho fatto una battuta, perché? Le ho fatto una battuta come lei l'ha fatta a me, uguale, no? Guardi che l'amore tra i gay è un amore normale. Ma lo dice, c'è sempre l'amore. Infatti sono felicissimo per loro. Comunque sono mi pare chiaro che lei... Sono andato a tutti i gay pride. Mi pare chiaro, Armando, che lei non è assolutamente gay. Che sta cercando di prendere un po' in giro Davide, che se la prende troppo però. No, non è che me la prendo. Ma sei presa troppo. Traffico, torniamo tra un attimo, forse, vediamo se lo becchiamo per telefono, ma credo di sì, il signor Minzolini. Bene, alle 20:18, Parenzo, ci sei? Certo che ci sono, mi dispiace per questo ascoltatore che ha avuto... Vabbè, succede, te la sei presa troppo, non bisogna prendersela detto, così. Ma perché è stato volgare nei confronti degli omosessuali? Ma ogni tanto siamo volgari anche noi, ma dai, è stato volgare per loro, perché ha detto attivo, passivo, cioè poverino, è uno che... Vabbè, ognuno, sai, questa volta però non è il signor Paiella che abbiamo avuto ospite qualche tempo fa, in un bellissimo duetto qui alla Zanzara, ma sì, in carne ed ossa, anche se non è qui presente accanto a noi, sì. Augusto Minzolini, buonasera. Buonasera. Come sta, direttore? Va tutto bene? Beh, sì, bene. Insomma, lei è un po' più, mi dica la verità, un po' più sollevato, no? Sollevato. No. Ogni sera sono... sto TG1 no. da fare, un po' più tempo libero. Io sono più arrabbiato. Arrabbiato? Certo. È ancora arrabbiato come una bella, ma si è messo a fare la zecca garbuglio, ho sentito da qualche parte. Ma io infatti, guarda, è una cosa che non ho mai fatto in vita mia. Questa è la prima volta che sono entrato dentro un'aula di tribunale, è stato in questa occasione, perché altrimenti non sapevo, e devo dire che poveretti quei cittadini che si ritrovano ad avere a che fare con la giustizia. Perché che è successo in tribunale? Ma perché è un labirinto, è un tale labirinto di cose, avvocati, giudici, magistrati. Credo che se c'è una cosa estremamente macchinosa in Italia, questa è la giustizia. Ma sta cosa potrebbe finire presto, questa vicenda di peculato qua? Che tempi ha? Ma no, qui se si va avanti per si potrebbe andare avanti per anni, no? Adesso guarda, non te lo so dire, perché su queste cose, come avrai capito, non sono una zecca garbugli, appunto, non mi piace. Però mi dicono che i tempi, purtroppo, specie qui a Roma, hanno una certa che sono rapidi, non sono brevi, purtroppo. Sono... Però sai, sono queste cose. Poi la cosa che a me mi colpisce e che non sapevo, perché poi ti informi su queste cose qui, è che Danne, qui almeno a Roma è quasi normale il rinvio a giudizio. Tieni conto che c'è una percentuale del 97% di rinvio a giudizio. Sembra una cosa. Allora, tutto parte dall'idea che, essendo, diciamo, il nostro un sistema garantista e a 3 gradi di giudizio, allora tanto vai. Inoltre che stai lì a guardare le carte e vai nella fase dibattimentale. Sì. Solo che poi esistono leggi che, diciamo, che non potrebbero essere applicate alla RAI, ma questo è tutto un altro discorso, ecco, non voglio fare. Sì, poi oggi c'è stata un'altra roba della di queste cose, sì, infatti. Però che in ogni caso tu già paghi una pena, cioè nel senso, sei rinviato da giudizio, in ogni caso devi andare via da lì. Per cui molto spesso ci sono delle cose, specialmente quando per persone che sono delle gulei, sì, che ma non varrebbe la pena di creano una, senti un attimo, sì, creano una strategia politica che va tutto su questi meccanismi qui, nel senso che tu fai, io ti mando in via giudizio, intanto non ti succede niente, però nel frattempo io riesco a fare un'operazione per cui io ti tolgo dal posto dove non voglio che tu stai. Ho capito, ma il tuo obiettivo adesso è quello di essere reintegrato come direttore del TG1, oppure dopo un po' basta con questa storia, fatemi fare qualcos'altro, me ne va, cioè l'obiettivo vero? No, è quello... io ti dico molto francamente, sono un uomo di mondo, non sto lì a vedere, non so, una cosa l'ho fatto, tieni conto che un direttore del TG1 dura in media un anno e mezzo, il povero Lerner ma anche molto di meno, qualcun altro molto di più. Più fai, più sei in novi, più diciamo hai rischio, diciamo, che ti fanno prima, ti fanno fuori prima. Sì. Però è anche vero, sai, io non so come la pensi te, però le forme sono fondamentali. Cioè, nel senso, se uno ti dice parliamone, e ne parliamo. Se qualcuno ti dice ah no, devi andare via per questo, e poi ti accorgi che quella legge è inapplicabile, per la prima volta l'hanno applicata con te e che non sta né in cielo né in terra, allora posso usare un'espressione un po' forte? Ti incazzi. Sì. Dunque tu vuoi dimostrare adesso, in questo momento, pur essendo il diritto, le questioni un po' lontane dal tuo modo di essere e di fare, vuoi dimostrare che... Sai, è così, ma se tu vedi, cioè, metà di questo paese ormai è alle prese con il diritto, cioè guarda un po', in politica, in economia, è tutto fatto in modo tale per cui tu finisci in questi meccanismi e per cui... Ma ti hanno proposto di fare... ti hanno proposto di fare, di andare a New York oppure da qualche altra parte o no? Te l'hanno già proposto o no? Questo... No, mi è stato proposto, ma io ti ho detto che vado avanti rispetto a questa vicenda, farò il ricorso. Sì. Tieni conto che poi non è che su queste cose, New York già sono stato con la stampa, sono stato per 2 anni, 2 anni e mezzo, ho fatto le elezioni di Bush, poi sono tornato lì. E perché ti hanno proposto New York e hai detto di no? No, ho detto che una cosa c'è, io ho detto che la legge che hanno applicato non era applicabile. E ti dico che è anche una cosa secondo me importante per l'azienda, perché se tu fai diventare la RAI un ente pubblico, allora a questo punto devi essere coerente, allora le assunzioni si fanno per concorso, si seguono determinate cose. Per cui non dici a New York mai, però, in realtà, non dici a New York mai oppure a Parigi mai, che ne so, cioè questo non lo dici, è possibile pure che a un certo punto, se verrà riconfermata questa cosa, eccetera, eccetera, accetti un'altra destinazione. No, io ti ho detto, vado, visto che loro hanno preso come strada quella del, come abbiamo detto prima, degli azzeccagarbugli, io mi fido agli azzeccagarbugli. E questa non è male. Allora, che vuoi sapere, Parenzo? Sì. No, due cose. Uno, qual è il telegiornale che la sera guarda Minzolini? Cioè, il TG1 lo guarda ancora? Magari nessuno. No, lo vedo, chiaramente vedo il TG1. E come è fatto? Meglio, peggio o uguale? Ma è, di fatto sta cambiando, secondo me sta un po' tornando indietro, ma molto dipende, diciamo, dal gusto, tornando indietro, dalla mentalità. Nel senso, sta tornando il nuovo direttore, che io stimo, una persona Maccari, brava, che c'è Maccari, però secondo me è molto legato a uno schema che è superato, che è quello del duopolio, per cui molto spesso, diciamo, ecco, mantiene, diciamo, è tornato, diciamo, a un TG molto tradizionalista, dimenticando che purtroppo, ed è l'unico problema che ho avuto io, è che quando sono arrivato io con la digitalizzazione si è passati da 30 canali a 280, è come se su una lunga strada, prima c'erano 30 negozi e adesso ce ne sono 280, per cui tu, voi in radio non avete questo problema, non l'avete sempre avuto, per cui però immaginati che hai una concorrenza di 200, che sono tante nicchie, cioè, allora se tu becchi, non so, il telespettatore, ma che scusa, guardava il TG1 perché gli piaceva che qualcosa sul, diciamo, ti faccio un esempio, no? Ma questo vale anche per Mentana. Come? Scusa, dice, questo vale anche questo per Mentana. Vale anche per Mentana, che invece è sono d'accordo. Ma tu guarda questa cosa, è un conto se tu fai un secondo te, adesso ti faccio un paragone, c'è una, hanno fatto un ottimo lavoro, c'è una società internazionale che ha fatto un'analisi su 20 telegiornali generalisti e 10 specializzati. Allora, l'ingrediente di Mentana rispetto a me, io do, questo ti fa capire che poi sul piano, diciamo, della strumentalizzazione, cioè dell'orientamento, il mio sicuramente è meno esposto, perché io normalmente nella mia media faccio 17 minuti di politica. Sì, lui ne fa il 90%, Mentana lui fa il 90%. Ne fa 42. Sì. No, cioè, scusa, il 17% e lui ne fa il 42. Sì. Tu capisci che se io porto il 40, faccio un telegiornale, un TG1 che assegna il 42% del suo tempo alla politica, io non so al 22-23 che sto adesso, ma passo al 13, sì, al sicuro, 15, sicuro, al 16, chiaro? E questo è il punto. Quello che succede è che mentre prima non c'era Mentana, ma non c'erano tante altre cose, non c'erano i comics, non c'era National Geographic, non c'era tutto questo, che vanno incontro a tanti esigenze, diciamo, sì, segmenti, nicchie di telespettatori che vedono solo quello. Adesso io ce l'ho, ed essendo il grande, diciamo, il telegiornale più grande, quello generalista, è chiaro che quello che si interessa solamente di politica preferisce andare lì, anche se è una quota più bassa, e sicuramente che se io abbraccio perdo molto di più. Allora, una domanda che voglio farti, questa è chiaro, diciamo, invece una domanda che voglio farti è questa: io a me non interessano le vicende giudiziarie, i dettagli, eccetera, sì, però c'è una cosa che mi sono chiesto leggendo qua e là, magari leggendo, sì, anche sì, male, eccetera. La cosa è questa: ma è vero o non è vero che le spese che tu hai fatto con la carta di credito aziendale, poi hai chiesto anche il rimborso di queste spese, è vero o no? Io ti spiego esattamente come stanno le cose, almeno no, ma questa cosa qua è interessante. No, perché è messa così poi non si capisce. Sinteticamente, allora, io faccio questo contratto, mi chiedono, diciamo, di fare l'esclusiva. Allora, l'esclusiva, io chiedo in cambio questa carta di credito. Tieni conto che gli altri direttori non l'avevano. Mi dai e perché l'hai chiesta? L'ho chiesta perché, visto che perdevo quella cosa e l'avevo invece nel giornale in cui lavoravo prima, cioè la stampa, ho detto, va bene, io perdo questa collaborazione, però fatemi una cosa che almeno mi dà la possibilità di fare le spese di rappresentanza. Beh, ma già guadagnavi tanto, che bisogno avevi pure la carta di credito aziendale per coprire ma le spese? Guarda, ti posso dire, se io vado a mettere insieme quello che avevo tra benefit e altro e quello che sono andato a prendere, non è così tanto, no? Non ho guadagnato tanto, tenendo conto delle responsabilità e poi di tutto quello che poi cioè, mi è quanto era il contratto tu alla RAI, scusa, si può sapere? Quel contratto tu alla RAI? Lo trovi su cose, io avevo 5,40, beh, lo trovi su, guarda, sono talmente chiaro che se si va su Dagospia, ho dato la memoria in cui addirittura c'è scritto 5,40. Non è che, allora, io faccio questa cosa qui e gli chiedo questa, per loro per 2 anni non mi dicono nulla, poi sì, a una settimana dal voto del 14 dicembre, dove sì, rischia di cadere il governo Berlusconi, un consigliere di minoranza di Rizzo c'è tutto questo problema. Bene, allora l'allora direttore generale mi dice, guarda, è un benefit, risponde a Rizzo Nervo, dice, no, non c'è nessun problema, è un benefit compensativo, come benefit compensativi li avevano anche i precedenti direttori. Poi la cosa va avanti, si complica e lui manda una lettera a me e dice, guarda, abbiamo verificato dopo due anni che non possiamo, diciamo, fare questo benefit compensativo qui alla RAI, devi restituire i soldi, per cui tu che cosa devi fare? Devi seguire determinate procedure, visto che tieni conto, al di là di tutte le stupidaggini che sono state scritte, e a questo punto non basta, si va a vedere, diciamo, gli incartamenti anche del PM, vedrai, l'unico problema erano i pranzi, cioè non è che rispetto ad altre vicende RAI, con me troverai bottiglie di champagne, che ti posso dire, gioielli o altro, ci sono solamente pranzi. La procedura prevede, Cattaneo del 2003, che accanto alla ricevuta del pranzo che ho sempre mandato, sì, tu dovevi mettere il nome della persona con cui andavi a mangiare. Sfido, ma lascio perdere, sfido, se tu riesci a trovare un direttore di giornale che ha detto in Italia con chi andava che fa questo, io credo che voglio dire, la domanda è questa, tu hai chiesto, fammi finire, la cosa interessante è che allora va bene questa, quando mi fanno questo discorso, allora io chiaramente, vabbè, ho sbagliato la procedura, mi riservo, diciamo, di porvi il problema di rivalere su di voi, però questa procedura è sbagliata e allora io vi do i soldi. Tieni conto che non c'era ancora nulla di penale, non c'era nulla della Corte dei Conti. La cosa interessante, che secondo me invece andrebbe sottolineata e che il PM non è andato a verificare, è che invece ho verificato io, sono andato a vedere, ma questa circolare di Cattaneo, sì, come è stata di fatto messa in pratica dai miei predecessori? E se tu vai a vedere la memoria, c'è quello che faceva le spese, i rimborsi spese di Mimun, e che dice che loro non lo hanno mai messo il nome di questo della persona con cui andava a mangiare, sì, Mimun, e probabilmente però ripeto, adesso abbiamo... il punto qual era? È che per la prima volta questa prassi diversa, nel senso che c'era la circolare, però visto che il direttore del TG1 ha un certo ruolo, era stato esonerato, sì, per dire, sì, il, sì, nome, è stata applicata con me. Io questo trovo scandaloso. D'accordo, perché... però veramente hai fatto, vabbè, il leguleio, veramente una cosa. Ma non è, scusami, tu Franca, adesso ti sto dicendo, allora tu c'hai una specie di rappresentanza, ti dicono che devi metterci il nome, non lo metti, me lo dicono dopo 2 anni, perché altrimenti l'avrei, sì, messo. Allora, io ti ridò i soldi, poi venga a sapere che questa per la prima volta, questa applicazione, diciamo, di questo circolare in questa maniera viene fatta con me. I miei predecessori non è stato richiesto, la prassi voleva che proprio per... D'accordo, benissimo, ma è vero o no? Non è una questione di essere leguleri, qui è una questione di essere, diciamo, chiari. No, d'accordo, ma è vero o no che tu, oltre all'usare la carta di credito aziendale, poi chiedevi anche contemporanea? No, una cazzata, no, quello era un meccanismo, guarda, quello neanche, non per nulla, se vai a vedere. Il PM non c'è nulla, l'unico problema che mi pone il PM è questa cosa di non aver messo i nomi. Va bene, andiamo, non hai mai chiesto il rimborso dopo aver pagato con la carta di credito aziendale? Ti pare, quella sarebbe stata truffa, ma come ti viene in testa? E che ne so, l'ho letto da qualche parte. Una cosa del genere, allora io lo ripeto, non l'ho mai fatto, se lo ripeti ti querelo. Benissimo. No, perché non lo trovi neanche dentro, diciamo, gli incartamenti. È stato scritto più volte, Ma guarda, sono state scritte pure tante cose che No, io ho fatto una domanda. Ma ti dico, se io devo andare appresso, ma non è negli incartamenti nel PM, guarda, questa roba non è roba sono andato processo. Oggi da Piroso, in cui, diciamo, c'è stata una specie di linciaggio a uno del fatto che mi diceva così, sì, tieni conto che il fatto, cioè, ti posso dire, avevano scritto quelli del fatto. Adesso riprendiamo dal fatto, però c'è la borsa prima. Eccoci Parenzo, collegamento da Padova, da Roma, Augusto Minzolini. Voglio subito chiedere a Minzolini, però, per andare un po' nel merito di alcune questioni. No, aspetta, no, stavi dicendo sulle cose che il fatto, che è successo, che è un plotone d'esecuzione, il fatto, che è successo oggi da Piroso? No, lì, nel senso, hanno un'aggressione, che aggressione? C'è uno del fatto, nell'unità via dicendo. Comunque, rispetto a quello del fatto, tu mi dicevi le cose che sono state scritte, l'hanno scritto tutti i giornali. Se ti ricordi, quando ci fu la vicenda di Trani, no? Scritto tutti i giornali per 3 giorni che aveva un avviso di garanzia per conclusione. Sì. Dopo 3 giorni si scoprì che non era di conclusione e invece era, diciamo, una votazione di segreto istruttorio che addirittura è stato poi archiviato. Allora visto che su questa cosa qui ho fatto ricorso anche all'ordine dicendo, c'è un paio di settimane che quelli del fatto mi chiedono di sono pronti a farmi un'intervista risarcitoria per dire, per spiegare che le cose come sono andate dicendo. E io gli ho già detto di no. Perché, dato che oggi quello del fatto mi ha ricordato, diciamo, che da giovane stavo con Moretti, diciamo, allora io ho risposto esattamente con uno slogan di allora, non so se tu ricordi, pagherete caro, pagherete tutto. Io su questa cosa qui non transigo, ti ho detto, c'è una cattiva informazione in Italia che si approfitta e che è portata non a fare informazione ma a fare linciaggi, e io questa cosa non la sopporto. Il fatto fa linciaggi, linciaggi. Dilla come l'avremmo detta noi di lotta continua, mi ci metto dentro anch'io. Che c'entri tu che anni. Sei giovane? Ma chi c'era? Io sarei stato di lotta continua. Dillo. Ma chi l'ha detto? Pagherete caro! Pagherete tutto! Io però voglio dire a Minzolini, che abbraccio fortissimamente, perché io alla fine gli voglio bene, tante volte abbiamo litigato in questa trasmissione sul suo operato, ma giornalisticamente, però ho un affetto smodato per Minzolini e lo voglio abbracciare forte e vorrei andare in vacanza con lui a Natale. Ormai sono diventato, ho detto, uno che sta presso a queste cose, mi dispiace, non lasciate troppo andare queste cose. Le leggevo sul giornale e mi veniva da ridere, ridendo, però alla fine è successo quello che è successo, adesso non rido più. Che vuoi dire? Che se la tua vicenda, che dovrà essere dimostrata, fosse accaduta con Minzolini direttore in un'azienda privata, sarebbe accaduta esattamente la stessa cosa. Ma cosa? La questione delle spese, ma è tutta una cosa. La questione dell'allontanamento, la questione delle spese, certamente, perché in un'azienda privata. Ma come no? Ma è evidente che è così, cioè perché la carta di credito sarebbe... Ma tu devi partire da un presupposto che è fondamentale. Sì. Tu per 2 anni, cioè se tu per caso in un'azienda privata, ma in una qualunque azienda, anche in una RAI normale, tu io che cosa privata. Fai? Fai una cosa, io ho mandato tutti i mesi tutti i mesi, mandavo le ricevute. Se c'era qualcosa che non andava, tu mi chiamavi e mi dicevi: guarda, ci devi mettere il nome. Perché hai definito Masi un pussy? Perché hai definito? Hanno aspettato due anni. Sai qual è il colmo di tutta questa vicenda? Che alla fine io le spese di rappresentanza me le sono pagate, ma in due bilanci la RAI se le è scaricate fiscalmente. Questo è un paradosso o no? Questi 60.000 euro rotti? I 70 milioni io me li sono pagati, i 70.000 euro quali erano? Ma io mi sono speso e ho pagato le mie spese di rappresentanza. Nel frattempo, e questo ti fa capire che c'è un sistema lì che non funziona, le RAI le ha scaricate fiscalmente. È normale? Cioè ci ha guadagnato la RAI, dici, questa cosa? Scusami, è quello che è avvenuto, perché io ce l'assegno gliel'ho fatta. Appena mi ha detto le procedure non erano quelle, gli ho fatto l'assegno. Poi ripeto, con riserva, perché tu mi devi spiegare perché ci hai messo due anni per dirmelo. Ma è vero che Masi a un certo punto siete quasi venuti alle mani su questa cosa qua del rimborso dei soldi, così mi hanno raccontato. No, io non sono venuto alle mani con nessuno. No, quasi. Allora, quasi. Uno che dice prima che è un benefit compensativo, poi dice che è una facility, poi va lì e dice che è una cosa che lui c'è stato un errore lessicale, ma secondo te è normale? Ma poi non è che le ha dette, diciamo, parlando, sono lettere pubbliche. Perché l'hai definito un pusillanime? Guarda, la parola stessa, io non vado oltre, tu spiegati, diciamo, questo è l'atteggiamento che è tenuto. Io ti dico solo che questa cosa non sarebbe successa, bastava, come avviene a qualunque dipendente RAI, non dico a un direttore, che quando gli sono arrivate i primi, diciamo, rimborsi spese con tutte le ricevute, uno diceva: guarda, in questa ricevuta manca il nome, mettilo, va bene. Io allora, ma nessuno controlla, detto, lì nessuno controlla, no, nessuno, no, nessuno ha mai controllato. No, sbagli, c'è uno che depone lì al PM e dice che erano controllate, allora perché nessuno me lo ha detto? Ma scusa, tu hai detto, allora, hai detto, diciamoci la verità, tu hai detto... c'è un problema di fondo. Qual è? Diciamo che molto spesso in Italia, non parla in generale, vengono usati, ecco perché poi alla fine uno si applica. Cioè queste cose per far fuori le persone. Per far fuori le persone, perché allora se tu mi dici: guarda, politicamente non mi stai bene, allora lo fai. Però se tu non ti prendevi, se tu non prendevi sta carta di credito, se tu non puoi fare un'operazione di questo tipo ad uno, e lo ripeto perché poi ti ho detto berlusconiano, perché uno, ma le cose poi vanno pure dette. Perché tu non sei berlusconiano. No, Berlusconi, io non sono mai stato dipendente di Berlusconi. Vabbè, però se Santoro lo è stato. No, fammi sentire. Santoro lo è stato. Allora uno passa per essere così, e quando io ti ho detto, se io poi la penso in una certa maniera, sono libero di pensarla, perché non c'è un regime, perché qui tutti gridano al regime, ma c'è un regime alla rovescia, perché altrimenti io non sarei stato rimosso in questa maniera dalla RAI. Se fosse mai esistito il regime che molti giornali, a cominciare dall'Unità del Fatto, hanno denunciato per anni. Beh, perché Berlusconi a un certo punto si è indebolito. Questa è la realtà. Ma lascia perdere che si è indebolito, cioè nel senso, ti posso parlare di gente che è rimasta lì, Riotta è rimasta lì quando c'era ancora Berlusconi per un anno. Sì, questo è vero. Faceva il telegiornale in modo un po' diverso. Fate parte, diciamo, del Sole 24 Ore. Scusi, lei ha detto, sì, come no, certo che facciamo parte. E allora, il tuo ex direttore è stato lì ben oltre, diciamo, la non è più il direttore, il profilo, diciamo, la durata del governo Prodi. Sì, me lo ricordo. Sì, perché è stato giudicato un bravo direttore. A Libero, tu hai detto che sono stato fatto fuori da un sicario. Chi è sto sicario? Ma non sta a parlare delle miserie umane, dai, su. E come no? Chi sarebbe? Chi ma sarebbe? No, basta che uno lo vede. Basta, Gorla? Non vedere come... E io ti ho detto, non parlo delle miserie umane. E Garimberti che dice che hai fatto il peggiore TG, il TG più brutto della storia della RAI? Ma guarda, quello lo dice lui. Io posso dire una cosa, la cosa che mi ha colpito è che lui dice, perché io poi lo posso dirlo dall'alto, non so di quale cattedra, io se uno va a vedere di cose ne ho fatte di scoop, penso, cioè se non sto lì a ricordarti perché altrimenti farei il narciso, ma uno va a vedere, sono finito pure sulla Treccani, quindi non sto lì. Io di Garimberti non ricordo nulla, francamente. Nel passato dice hai fatto di scoop di no, ma quando senso... eri lontano, però perché una volta Augusto Minzolini, un mito di tutti noi cronisti che ci occupavamo di politica, sembrava uno molto distante dal potere, cioè vicino, dentro ma distante, per usare una terminologia di Radio Radicale. Bravo, a un certo punto ti ha affascinato, su questo non c'è dubbio, perché affascina in molti, mica non è una Palazzo, no, ma ti ha affascinato la figura di Berlusconi, cioè ti sei avvicinato a Berlusconi, questo è vero. No, io ti dico che quello che ho sempre pensato che in questo paese è che è necessario, diciamo, un processo di modernizzazione profondo. Adesso lo stanno facendo i professori, non so se ci riusciranno. E Berlusconi l'ha incarnato. Berlusconi, diciamo, l'ha tentato. Poi parti da un presupposto, io sono sempre stato così. Io, tieni conto, sono entrato a Panorama De Benedetti Rinaldi, sì, sì, per aver fatto una raccolta di Barzelletta era un ragazzino, collaboravo, sì, sui socialisti. Sì. Poi, e sono stato sempre creduto così, ce ne ho fatte tante, diciamo, sì, però la cosa che mi ha cambiato, diciamo, anche atteggiamento, anche nel rapporto con la sinistra, è vedere quello che è successo, diciamo, non la vicenda Craxi in generale, ma l'episodio delle monetine. Io non sopporto assolutamente i linciaggi di piazza, mediatici, giudiziari, chiamali come cioè pare. Da quel momento in poi che è successo? Quello che ho visto è che in questi anni, su Berlusconi, perché altrimenti c'è stato tutta questa operazione. E allora alla fine io non ti dico. E dunque sei diventato un po' berlusconiano. Dire, io penso di aver avuto una funzione, tenendo conto di come erano schierate, se uno non è ipocrita ed è, diciamo, nel giusto e dice le cose come stanno, tu vedi come è schierata l'informazione italiana, perché altrimenti non sarebbe successo. E che ruolo hai avuto? Allora, a quello, diciamo, di dare anche un minimo, di contribuire al pluralismo, cioè nel senso di dare notizie che molti non hanno dato, e te ne potrai dire, diciamo, dentro il TG, no? Date tante perché dicono che hanno dato notizie, ma secondo me, guarda, però cosa ti ha affascinato? Mi hanno emarginato è il fatto di aver dato delle notizie che molti non piacevano. Ma cosa ti ha affascinato di Berlusconi in questi anni in cui ti sei avvicinato? Ma lui, guarda, lui un elemento rivoluzionario ce l'ha sempre avuto, cioè altrimenti non ci ma hanno. Come mai? Diciamoci la verità, se no non sarebbe non avrebbe avuto il successo che ha avuto anche dal punto di vista elettorale, perché questo non è, cioè quello di liquidare Berlusconi con il fatto che è proprietario delle televisioni è una mezza idiozia, perché non le televisioni, oltretutto non ci sarebbe stata allora quell'alternanza, prima Berlusconi, poi Prodi, poi Berlusconi, poi ma Prodi, come mai, quindi quello lì non c'è. Lì c'era un elemento, e oltretutto era un elemento che, se fosse stato utilizzato, avrebbe anche favorito una modernizzazione della sinistra, cosa che invece non c'è stata. Ma ancora da dare alla politica Berlusconi, secondo te? Ancora da dare qualcosa alla politica Berlusconi? Non lo so, guarda, questo non penso. Lo hai sentito in queste ore? Guarda, ma io ho sentito tanta gente, diciamo, in queste ore. L'ho incontrato, io non voglio stare lì a dire chi mi ha dato solidarietà, ma sono molti di più di quello che tu immagini e molti a cui tu non penseresti proprio. Comunque, guarda, si sa che l'ha incontrato, no? Si sa che l'ha incontrato? No, incontrato no, l'ho sentito un paio di volte al telefono, sì. Ti considera uno dei suoi? Perché questa è la cosa, l'altro giorno la Santanchè ci ha detto proteggiamo troppo poco i nostri come Minzolini. Guarda, lì non è tanto essere io penso di avere molto equilibrio. Il fatto, diciamo, quando a me mi fa sorridere, ti ho detto, quando qualcuno mi immagina come schierato, no, io quello che casomai garantisco in un paese che è schierato, e che ha questo gusto per il linciaggio, quello di essere equilibrato, di non entrare, diciamo, in un meccanismo perverso, per cui, guarda, una cosa che mi ha molto colpito di questa ricerca, che oltretutto ti ho detto me l'hanno dato i Rai, per cui non lo sapevo, è il fatto che dicono che noi siamo, come TG1, in questi anni abbiamo dato sempre le notizie in maniera asettica, mentre il TG4 e il TG3 in maniera ma ti rimproveri qualcosa, che ne so, quella vicenda su Mills, qualcosa ti rimprovererai, che ne so, troppe notizie leggere, io neanche c'ero, ma stiamo parlando di un titolo che non era neanche scritto alle 13:30, non è che due secondi, non so quanto è andato, che nel giro di un giorno è stato detto correttamente a 24 milioni di italiani, tenendo conto tutte le edizioni, e a 2 milioni hanno avuto questa cosa che è passata. Tu non c'entri niente in quella roba là. Non c'eri proprio. Ecco, però chiaramente, a differenza di quello che avviene spesso, diciamo, nel nostro paese, io mi assumo anche le mie responsabilità, anche quando non ci sono. Traffico, torniamo subito per gli ultimi minuti con Augusto Minzolini, ex direttore del TG1, per capire come andrà a finire questa storia. Strade in diretta. Lungo la 14 Adriatica si resta in coda a causa di un incidente tra Senigallia e Ancona Nord sulla carreggiata in direzione Pescara. Sempre sulla carreggiata sud della 14 il traffico è ancora intenso, ci sono delle code a tratti in Romagna tra Cesena e Riccione e poi ancora tra Pescara Nord e Ortona verso Bari. Traffico ancora intenso anche sull'autostrada del Sole alle porte della capitale, code a tratti da Roma Nord a Valmontone verso Napoli. Il traffico è invece in attenuazione sul resto dei percorsi, ricordiamo che per facilitare gli spostamenti i mezzi pesanti non possono circolare oggi fino alle 22. Anticipiamo infine che la 20 Messina-Palermo chiuderà a breve a causa di lavori tra Patti e Falcone in entrambe le direzioni dalle 21 fino alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora. La Zanzara. Allora, due cose per concludere. La prima cosa è questa con Augusto Minzolini, ma Alla fine chi si è comportato meglio barra peggio con te? La lei nominata da Berlusconi oppure il quello che hai definito il pusillanime Masi? Guarda, non mi fare, non do giudizi su questa cosa qui, io cerco di volare alto, te lo dico. Vabbè, adesso però ho capito, ma chi si è, con chi, sono pusillanime, stati i tuoi dirigenti? Guarda, ti posso dire, nel senso che non ho capito le decisioni di entrambi. Beh, poi me le spiegheranno, altrimenti non avrei fatto. Ma quella della lei perché? Per riposizionarsi, secondo te? Perché il clima era cambiato? È stata applicata una legge che va contro tutta la filosofia Rai. Tieni conto che la Rai in tutti i modi ha cercato di non essere mai paragonato, comunque non essere mai considerato un ente pubblico. Improvvisamente mette la testa nel cappio di una legge che viene utilizzata soltanto per gli enti pubblici. Tant'è che quello che tu vedi adesso, che questo della Cassazione, cioè questa sentenza, lasciamola agli avvocati, e dimostra che invece la RAI la pensa in maniera diversa, perché il ricorso fatto dalla RAI, Cassazione, che ha vinto la RAI, è proprio quello di dimostrare che non è un ente pubblico. Vabbè, ma sì, però stato chiaro. Sì, però no, ma è una vicenda complicata. È un tecnicismo che però su cui si basa. No, non è tecnicismo, è andato, nel senso che è stata applicata una legge che non andava applicata. Sì, ma il fatto stesso che tu hai restituito i soldi, comunque dai, vabbè, questo è poco male. Ma non è che ho restituito i soldi perché c'era un giudice penale, non c'era nessuno, mi hanno detto che come avevo fatto io le note spese contravvenivano a una serie di procedure che poi ho visto che non erano state applicate con altri. Ma a quel punto che cosa fai? Ho capito, ma hai sbagliato a prenderti io secondo me l'errore iniziale è prendersi sta carta di credito. Perché ti sei preso sta carta di credito? Ti posso dire, ma qual è? Perché oltretutto la carta di credito. Ma mai detto che nessun direttore del TG1. Però chiaro, ma perché diciamo che è un'azienda antiquata, ma qual è quell'azienda che manda ancora la gente con i soldi, con gli anticipi? E poi cosa c'è di più? Vabbè, chiaro? Un sacco di aziende pagano. Cosa c'è di più chiaro, di limpido di una carta di credito? Io spendo e a loro gli arriva la ricevuta, io poi gli do la ricevuta. Allora lì il problema, e ti ho detto, è quello di essere abbastanza chiari, abbastanza corretti. Sì, ma te l'hanno data per compensare un mancato introito da altre collaborazioni, questa è la perversione. Ma io non ho chiesto, stammi a sentire, non è che ho chiesto soldi più, ho detto invece di darmi gli anticipi con cui io devo pagare la carta di credito, le spese di rappresentanza, voi datemi la carta di credito, poi è chiaro, altrimenti io ho sempre mandato le note spese. Però scusa, sono loro che non hanno controllato, tant'è che alla fine l'intera vicenda di cui noi stiamo parlando, cioè il nocciolo di questa questione giudiziaria che ho di fronte, è perché non ho messo i nomi, cioè tutto si basa su quello. Chiedi al tuo direttore attuale, se lui per caso quando fa delle spese di rappresentanza, cioè va a pranzo con qualcuno, mette il nome della persona con cui è andato a pranzo, sono sicuro che ti dirà di no. È una questione di riservatezza delle fonti e di altro. Ma chissà come mai. Allora però, Minzolini, però io voglio chiedere una cosa, adesso che cosa vuole fare Augusto Minzolini? Restare alla RAI, andare via dalla RAI, trovare un altro posto di lavoro, che vuole fare? Battersi per Ma io mi sto battendo. Ho capito, ma nel futuro che vuoi fare? Poi vedo, se voglio continuare a fare il giornalista. Restare alla RAI, sì o no? Ti ho detto, io per adesso, qualunque cosa ti dico ora, tu la puoi interpretare in certa maniera. Io adesso mi batto tenendo conto che secondo me è stata applicata una legge che non doveva essere applicata. Solo questo. In maniera strumentale. Solo per cui è chiaro, se per caso questa legge è stata applicata male, dovrei tornare al TG1, o sbaglio? E che ne so? Torneresti a fare il direttore del TG1? Guarda, sì, io potrei tornare al TG1 facendo ricorso, se per caso è cosa che è molto probabile, penso, se uno anche se non sono un esperto, così dicono gli avvocati, è perché è stata applicata una legge che non doveva essere applicata. Secondo, potrei tornare anche se quella legge è stata applicata, perché quella legge prevede che il momento in cui... Sì, però adesso non andiamo nel tecnicismo. Lo devi sapere, perché altrimenti parliamo di altro. No. Il momento in cui ho una sentenza favorevole di primo grado, o quando ci sarà una sentenza favorevole, loro entro 5 giorni mi devono rimettere nel posto da dove mi hanno spostato. Però che tristezza essere rimessi dai giudici come Santoro, praticamente. Per la tua mentalità sarebbe una cosa pazzesca. Ma che colpa mia? Ma adesso, francamente, io ho capito, Santoro comincia a comprenderlo, almeno da questo punto di vista, Santoro. Perché quando tu ti butti. Ma se tu ti butti, su un piano, su un'azienda che invece di parlare, di ragionare, ti fa delle azioni di questo tipo, che sono tutte basate, come ho detto, sui legali e su tutto il resto, è chiaro che tu l'unica cosa che puoi fare per difenderti è usare gli stessi metodi da avvocato. Va bene. Peccato però che Amin Moon, che è stato direttore del TG1, ma non ce l'aveva la carta di credito. Veramente io parlo arabo, ti sto dicendo che la cosa interessante di Mimun è che a me mi hanno messo questa carta di credito. Posso dirti, direttore, con questa carta di credito uno che guadagna 500.000 euro all'anno potrà pagare due cazzi di ristoranti e farsi rimborsare dopo 5 giorni? Scusami se te lo dico alle 8:53. Ma non hai capito, a me francamente, scusami, io faccio una offerta, ti chiedo una cosa, me la danno, cioè non è che io l'ho chiesta, me l'hanno data loro. No, l'hai chiesta, l'hai chiesta. Allora io l'ho chiesta, loro me la danno. Allora a questo punto loro controllando mi ti dicono guarda che quella procedura è sbagliata. E la cosa che a me mi fa più incazzare e che dovrebbe far incazzare anche te se fossi un minimo, diciamo, un minimo di equilibrio, è che quella procedura che hanno utilizzato con me, con i direttori presenti, sì, no, ma questa è probabile, non l'hanno mai utilizzata, va bene, chiaro, questo vabbè, questo è chiaro, capito? Ma questo è il punto, perché se tu a me mi dicevi quando io ti chiedevo la nota spese, mi dicevi guarda caro Minzolini, tu dovevi mettere il nome o altrimenti caro Minzolini tu non puoi spendere più di questo, o caro Minzolini tu non la devi utilizzare la carta di credito. Io francamente me ne sarei fregato, va con bene? Con tutti i precari che ci sono alla RAI che devono pagarsi le trasferte, poi se le vedono rimborsate a 60 giorni. Guarda, non parlare a me con i precari, francamente mi fa poca pena. Ascoltami, io ho trovato lì 20 persone che facevano i precari. La prima cosa che ho fatto, non sono stato neanche a vedere chi l'aveva preso o meno, appena che ho incontrato un precario che a 52 anni era ancora precario. Dobbiamo chiudere, li ho assunti tutti. Grazie Augusto, a presto. Grazie, a presto. Ciao David, ci sentiamo a 9, ci sentiamo a 9. Ci sentiamo a 9. Prima in onda il 9 gennaio la Zanzara. Ciao. Ciao. E ti piace così? Cioè, se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tenti questa roba qua. Ti piace così? Va bene. Mediocre, stai zitto. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. La Zanzara.